Quando finisce la partita, forse. Dipende da volendo possiamo fare l'unboxing del prossimo pacco che mi arriverà a dicembre, mi sa. Va bene, ma senza indugio andiamo in diretta. Eccoci qui, bentornati, benvenuti alla nostra sessione settimanale di Tycoons and Dragons e RimGDR, ovviamente. Oggi giochiamo giochiamo alla Maledizione Katta. Questo è l'episodio 67. La la la la la la. E ne aspetteremo altri 30. Tra l'altro, sarebbe curioso andare a vedere qual è l'episodio in cui io ho detto Katta, ma adesso ci mancheranno tipo 10 episodi. Perché sarà stato tipo 20 episodi fa. Però comunque vabbè, questo se per i nostri fan più agguerriti, se volete segnalarci. Secondo me era l'episodio 60. Così. No. Secondo me era prima. Deve essere il 50, eh. Secondo 50. Non lo so. Ho in testa un numero tondo. 60, dici. Può essere. O era tipo dopo che diciamo avevano sbloccato qualcosa, tipo il tempio. Dovevate partire per il tempio, forse comunque avete acceso la luce. No, il tempio, scusami, il santuario, insomma, il castello dei paladini. Mm. Vabbè, comunque, siamo arrivati fin qua, episodio 67 della Maledizione di Katta, che è la nostra campagna di Dungeons and Dragons, che oggi, su richiesta del nostro master Enrico Cattabriga, abbiamo anche taggato. Ci vedete in formazione ridotta, ma potrebbe aggiungersi con noi Stefano Gamberoni, che al momento sta guardando, no, adesso no perché c'è l'intervallo, l'Inter, in onore di Scudetto. Ma non ci lasciano invece i due Bosi, Giulio e Marco Bosi, e anche Francesco Arcidiacono è con noi oggi, mentre salutiamo Edoardo Saladini, che non ci sarà invece della giornata odierna, anche se faceva parte del meme che ho creato per noi qualche settimana fa, per la verità, e che era abbastanza carino, soprattutto per le facce di Salla che non so dove ha preso, onestamente. Perfetto. Va bene, e, vedo che la musica ancora non l'avete inserita, per cui approfitto, eccolo, guarda, subito così, chiamato, boh, è partito, boh, boh. Ok, vabbè, allora partiamo con il riassunto, ma volevo intanto dire che potete comunque continuare a seguirci sui nostri canali social, Tycoons and Dragons RPGDR. Saluto, il podcast si è arricchito di altri due episodi della Maledizione di Katta. Eccoli Rutti di Arci, che quindi si incarica di fare il riassunto. No, boh, ne ho giocato con Umbra Imperi. Mi ha già interrogato, però. Provo a farlo io. Effettivamente sei stato tu il protagonista dell'ultima sessione. In realtà sì, perché se non ricordo male, l'ultima sessione abbiamo parlamentato con Casimir. Cioè, io ho parlamentato con Casimir. Nulla, non intendo sia. Aspetta che abbasso un pochino. Cosa avete fatto? Avete giocato il mio PG mentre io ero assente? Cioè, in realtà forse va anche bene come volume, sono mio il problema. Allora, nello scorso episodio io ho parlamentato con Casimir, eravamo diciamo davanti al Tempio d'Amber al freddo a decidere il da farsi, e lui praticamente mi aveva spiegato che in realtà loro insomma erano un po' una cozzaglia, cioè già noi come gruppo appariva un po' una cozzaglia, ma sostanzialmente nessuno di loro, cioè, non sembravano avere troppo un filo conduttore, insomma, e quindi Casimir era anche abbastanza dell'idea di essere la nostra, però molti degli altri non erano così convinti, perché effettivamente, essendo stati nel tempio, avendo giocato quei poteri, poteva essere un po' pericoloso, e perché qualcuno di loro probabilmente insomma perso un po' ha ragione un po'. Che cos'è? Un panino tristissimo quello. No, con la Nutella forse. Bollo. Sì, vai avanti. Ok. E a questo punto lui mi aveva proposto questo praticamente. Loro ci curavano sostanzialmente con quello che potevano, e noi praticamente entravamo per primi all'interno del tempio. Poi c'era un sottoaccordo con Casimir che lui ci avrebbe dato una mano a patto che noi l'avremmo aiutato a raggiungere un sarcofago dove poter ricevere il potere di resurrezione. Il potere della resurrezione, che noi però ancora non avevamo trovato. Quindi probabilmente si trova ancora più in profondità nel tempio. E quindi insomma su questa base era arrivato più o meno l'accordo. Poi dall'altro lato, quindi poi dopo ci avevano curato ed eravamo più o meno pronti, ma dall'altro lato avevamo ancora dispersi Reis e Pak, che esatto. Pak di Goji a grugno. Goji giganti. Sono fragole. Pomodori. Giulio. Cioè, tra l'altro, Vez, 10 non mangi dei pomodori. Sono quelli che mi mangiavo quando mi avevi dato anche i tuoi. Quelli sono i miei? Sono quelli del casetto dell'anno scorso. Se li ha piantati in casa sua e li ha fatti crescere. No, ma se neanche te ne avanzano li vengo a prendere. Vanno rimesse adesso le piante, cioè andranno rimesse tra un po' le piante. Sarà per l'anno prossimo. Comunque, direi che questo era più o meno il riassunto. In realtà no, va fatta tutta la parte di Arci sostanzialmente, perché se non sbaglio loro sono saliti al piano terra, ma Arci aveva paura del fuoco. E quindi i teschi lo bloccavano. Però poi non mi ricordo a che punto erano rimasti. No, infatti vi siete fermati nella stanza, quella del modellino frantumato del castello. E Reis stava seguendo tranquillo, quando un buon risultato di percezione, hai percepito che nel corridoio, nella stanza successiva, hai sentito il rumore del fuoco e appunto sai che in quel corridoio c'erano i teschi infuocati, e quindi ci siamo fermati lì in con te bloccato. E non mi ricordo, questa parte qua ero già andato via, io c'ero. Sì, tu eri già andato via, mi sa. Quindi a questo punto, se siete d'accordo, io proseguirei con il gruppetto di fuori, che in questo modo riusciamo magari a ricongiungervi. Sì, per quanto non ci sia Reis, ma... E quello è appurato. Che non c'è Reis. Col gruppetto di fuori, perché alla fine è finita che noi dobbiamo andare a prendere loro, sostanzialmente. Sì, direi che è la cosa più... Noi tra l'altro non abbiamo più idea di dove siano questi. Oppure a sfortuna non aveva provato a fare un messaggio. Io ho provato un messaggio nella direzione in generale, però Giulio, non ho risposte. Giulio, non far casino, Giulio. Sì, scusate. Non fare Casimir. No, ma lui lo devo ammazzare. Jamai! Guarda Carla che ha messo tutti i suoi avatar felici. Ah sì, hai visto? Ne ho anche messo dentro tutte le descrizioni, cose che per voi non ho fatto. Però sono giganti rispetto a noi. Perché così si vedono meglio. Perché sono poi più importanti. Indistinguibili. Comunque sì, dovrebbero essere tutti della volta. Che va in bagno, anzi va contro il garage. Nel momento giusto, quindi, per tirare l'iniziativa e andare dentro un attimo, dobbiamo fare un'ultima cosa, ovvero il nostro amico Ilia, o almeno per conto di lui, vi aveva detto Casimir che ogni giorno ha il potere di imporre le mani a tre creature. per adesso la faccio guardi che gli ha recuperato 20 PS. Ma loro ci vogliono far entrare solo curati, no? Solo con i PF full, ma non con incantesimi e robe. Non possono. Cioè nel senso, non vogliono farci... No, non ci vogliono far riposare, perché adesso abbiamo stancato un po' i teschi e quindi è il momento di tornare dentro. Quindi se il ragionamento è colpiamoli ora che hanno le loro risorse. Cioè prenderne uno per noi... non prenderne 100. Più che altro, andiamo avanti la carne di macello, ovvero voi. Così dimostrerete la vostra buona volontà. E... sì, ma poi in teoria entrano anche loro. Sì, infatti Casimir vi dice che quello di dare la priorità ai teschi fiammeggianti, perché sono, possono creare molte, come dire, è molto rischioso se per sbaglio viene colpita la... Direi che è il momento di fare una domanda a Casimir prima di entrare. La povera basilica. Visto che noi non l'avevamo capito, come, siccome noi li abbiamo già una volta sconfitti ma sono tornati, secondo te Casimir come potremmo... Oh, ma lo sanno tutti, bisogna versare dell'acqua santa o fare un dissolvi magia una volta che sono cadaveri. Ed era... no, dissolvi magia è impossibile, acqua santa ce l'ho però. Funziona anche con dissolvi magia. Sì, ma dissolvi magia non ce l'ho, basta. Funziona anche con dissolvi magia, Vez. Capito, fai dissolvi magia. Se vuoi che io abbia dissolvi magia mi devi far riposare, Casi, quindi valuta tu, se ti va bene l'acqua santa vado con l'acqua santa. Sì, Vez, ma puoi usare anche dissolvi magie. Dissolvi magie di gamberi, dissolvi magie di scatola. Quindi, un altro di voi, di voi quattro. Ti stai massaggiando i calli per renderli più... sì. Succulenti. Olio, questo è olio al rosmarino, sì. Non è olio di fame, fame. Fame. Insalata di calli, la mia preferita, buonissima, congratulazioni, che dire. Anche un rimuovi maledizione. Già, salutiamo Siambra. Ciao. Che è Domenico De Francesco che ci fa ciao Boes. Comunque noi dovremmo iniziare a fare le puntate tematiche. Tipo il musical, vuoi dire, in cui cantiamo? No, tipo se c'è un evento, fare la puntata correlata all'evento. E che evento c'è? O prendiamo quello, dovremmo fare l'ex arcana, che c'è una festività ogni due giorni. Tipo oggi è la festa delle donne e noi facciamo la saga della salsiccia. Esatto. Mi sembra opportuno. Bravo. Bravo, mai piegarsi. In realtà è proprio quello che le donne vorrebbero, dovremmo fare al contrario. No, detto, dipende. Che giorno è oggi? No, tu mi piace Giulio, che quanta invidia. Sì, no, che sta facendo gli altri calcoli. Ok, un altro tra sfortuna, Atanas e Garrosh, può beneficiare del tocco dell'angelo. Dai, giocatevela a dadi. No, grazie. Garrosh è inutile, non c'è. Un c'è. Allora, tocca a te. Accetti di farti toccare dalla... No. Devi mostrare dove ti ha toccato. Ah, io ne prendo ancora altre, scusa, quante siamo? Quanto sono? Sei a 70 su 86. Direi che sarebbe quasi perfetto. Quasi, però... Dai, fallo a Garrosh se non lo vuoi, Giulio. Alla fine io sono a 78 su 90, quindi va bene così. Io come sono messo, Vez? Giulio. Sì, ma tu non sei lì, però. Lo so, però è una domanda... Tu sei 67. Servirebbero a te, in effetti. Però. Allora, potete dirle di tenerle per caso di necessità. Ma quante ne ha? Due o tre? Per adesso due ne rimangono. Ne rimangono due. Una la tieni per emergenza una volta che sarete dentro, però una seconda se c'è bisogno la, cosa... la usa a noi, però questa era la promessa, quindi niente emergenza. Se c'è uno che è morente la userà su quello morente, la terza che gli rimane. Sì, dei suoi però, quindi noi siamo fregati. Dipende. Era meglio se non ce lo dicevi, Catta. Però un'ora l'abbiamo riposata, no? Sì, un'ora l'avete riposata e vi ho anche fatto tirare per vedere se il freddo vi permetteva di riposare o meno. Non ce l'abbiamo fatta. Allora io mi recupero. Punto è? Non mi ricordo, l'avevo fatto. L'avevo usato? No, non i dadi, quelli sì, ma Second Wind l'avevo utilizzato, sì, mi sa forse sì. Ma invece guarda. Garrosh a che punto è? Cosa? Garrosh. Quanti PF ha Garrosh? Garrosh ha 116 PF su 147. Perfetto, siete come nuovi. Ottimo. Non proprio. Ah, poi in realtà abbiamo tutti 13 PF temporanei per sfortuna. Che sfortuna. Bravo, sfortuna. Per fortuna che c'è sfortuna. Ottimo. Dai. Entrate con un ordine o tiriamo il... Ah, si va. Vabbè, siamo io, Giulio e Marco sostanzialmente. Io sarei in fondo. Quindi manderei avanti Garro. È un'idea. Allora, aspetta, vogliamo entrare da davanti, cioè possiamo entrare solo da davanti e dobbiamo andare a sinistra. Entreremo io e Vardistran dietro Sfortuna a chiudere la fila Garro. Vai. Okay. Che non c'è. Ci fai vedere un po' più su, Catta, per favore? Sì. Sì. Ok. Va bene, direi che arriviamo all'inizio, cioè alla fine, scusa, del corridoino iniziale e sbirciamo. Mm-hmm. Perception? Vogliamo fare un stealth? Ci vedo molto fallibili. No, andiamo, tanto se il golem si avvicina ce ne accorgiamo. Dai, facciamo un perception per vedere se la situazione è libera. È tutto buio e noi non ci vediamo. Io ho fatto 8. No, io ho ancora la luce. No, luce. Vabbè, allora si rifà un cantrip. Non siamo molto stealth se abbiamo la luce. No, infatti non stiamo facendo stealth, stiamo facendo un perception. Mm-hmm. Oh. È già tanto che non abbiamo gli stendardi e avanziamo cantando. Beh, dovete attirare l'attenzione su di voi e questo è il piano. E io. Ok. Vedi la porta alla quella che è stata sfondata dal golem che è ancora sfondata. Sì. Un bagliore verde provenire dall'interno di questa stanza. Di questa stanza... Quella dove avete riposato, quella dove c'era il golem che... Un bagliore verde, quindi vuol dire che sono lì. Ok. Posso tirare di stealth e avvicinarmi, di so 4. Dove? Certamente. Alla porta quella più... Quella verde. Ok, allora sorpassaci. Quindi 15 più 7, 22. Ok. Cosa aspettiamo? Un tuo segnale? Mi vedete? Io ti vedo, ma che cosa vuoi fare? Perché? Cioè, ti le vogliamo lasciare andare? Perché non andiamo dall'altro lato? Dobbiamo uccidere i teschi, però. Sì, è quello che abbiamo detto che avremmo fatto, ma non è che dobbiamo farlo per forza. Ma perché non si fidano di lui? Però... Questo è tutto dopo. Cioè, se loro atteggiamento. Però il punto è che è probabile che da quella parte ci siano i nostri amici. Comunque. Sì, sì, più che altro se non c'è, se non c'è il coso, il golem, lì andiamo dove non c'è il golem. Voglio vedere cosa c'è dentro la stanza. Va bene, allora aspetti, anche torni dietro, ce lo dici. Mm-hmm. Vai. Cosa vedo? Ok. Tu la tua visibilità qual è? Hai una fonte di luce? Beh, la luce verde che c'è nella stanza, Catta. Oh no, si è tradito. È vero, pieno di torce. Si è tradito. Sì, questa stanza era piena di torce. Mi chiedevo se aveva delle capacità visibili. Io non ho fonti di luce né capacità di vedere nel buio. Allora okay. Perché si è stata una scoperta? Perché sì. C'era una luce che emanava e mi sono avvicinato. Ci sta. Vabbè. Ho più volontà di avvicinarmi di due lattine. Questo è vero. Allora, all'interno di questa stanza c'è un teschio che fluttua. Non c'è più traccia del golem che prima era qua a spaccare le pietre. È entrato nella montagna. Allora invio un messaggio a Vardistan dicendo: tutto libero, carichiamo pure. Bene. Vardistan, ricevi il messaggio. Il segnale. È boccio. E no, dico a Atanas, dice: pare che sia tutto libero. Hai detto che è tutto libero? Sì, esatto. Bene. Dice che è tutto libero e di avanzare. Anche se la luce verde vi fa venire qualche dubbio, però speriamo che almeno non ci sia il golem. Scusa, il messaggio era caricate, carichiamo pure. Questo lo... Sì. Tutto libero, caricate pure. Vabbè. Mentre esatto. Tu mi dici è tutto libero, avanziamo pure. Io ti dico, mi dice che è tutto libero e di avanzare. Presumo che non ci sia il golem, ma ci sia, vista la luce, almeno un teschio dentro. Quindi avanziamo con circospezione. E avanziamo con circospezione. Avanzate con circospezione. Mentre okay, avanzano, io mi nascondo nella camera qua in basso, con la porta aperta. Entra qui dentro? Sì. Cioè, mentre passiamo noi, praticamente. Sì. Mentre passano loro, praticamente. Ok. Ok, allora. Usiamo la porta, direi. Quale porta? È quella okay. Dove è andato Marco. Apro la porta, direi. Per dire okay. tipo, okay. Vieni fuori, pur con noi. Demente. Che cazzo fai? Vieni fuori. Marco apre la porta mentre state passando. Nel momento in cui la apre, si accorge che all'interno c'è un teschio. Allora stai pur lì. Sta bene, stronzo. Oh, tirate l'iniziativa. Ecco, uno in più che non c'era bisogno di avere. No, secondo me è uno degli altri, perché qua ce ne eravamo già passati, no? 19. E 19. Questo direi che si chiude la porta e si esce. 13. 18. 13. 18. Garrosh. E vabbè, Garrosh... Ha fatto un. Dai... Perfetto. Vabbè, se no ti è lo disparte. Ma sì, qualcosa farà. Danni oh. prenderà danni delle palle di fuoco. Esatto. 10. Ottimo. Sarò proprio come li avevo messi. 14. E voilà. Quindi, Vardistran, tocca a te. Sorpresa. Beh, dico a Sfortuna di chiudere la porta e poi vado, avanzo fino all'imboccatura della stanza. Che cosa vedo? Un teschio all'interno. Bene. e forse riesco ad andare nell'altra porta. Riesce ad arrivare di fronte alla porta. Cazzius, brutto. Allora cazzo, conviene che io la attacco, ma non con un movimento. Hai ancora la tua azione, volendo. Sì, ma io non posso, cioè non, lo posso attaccare sto coso o no? Coso è a 40 piedi da te. Quindi direi che se tu col tuo movimento fai 30 piedi di rincorsa, puoi provare a fare un attacco in salto. Ah, perché per andare a colpire un po' in mezz'aria. Sì, capisco cosa vuoi dire. Va bene, dai, proviamo. Sembra fallimentare. Ah. Oppure quindi posso attaccare questo nella quindi stampa. Faccio un attacco o vuoi che faccio un athletics anche? Fai anche un athletics e poi fai un attacco. L'athletics è 17. Passato. Ok, e poi faccio l'attacco. L'attacco è 23. Direi che lo hai colpito. Ok. Ah, 2-1, li posso ritirare. 1-2, perfetto. Ottimo. 10 danni. Ok. No, me lo segno. 10 danni. Ma non c'è il golem però in questa stanza. Non lo vedete. Beh, direi che non c'è. Oddio. Sì. Non lo vedete perché è nascosto. Non lo, vedete, nella montagna, non lo vedete? Si è fuso con l'ambra. Non lo vedete perché la. Scrive fatto l'ambra. Perché la stanza è la bocca del golem. No. Ok. Parte del tempio, parte, non so, di qualcosa. Ho capito, ma non siamo su una nave in mezzo al mare. La frase è sempre quella, Giulio, dovunque tu sia. Il personale del tempio. Il secondo è sfortuna. Allora, uso la mia interazione per chiudere lentamente la porta. Dicendo a fosse il bagno degli uomini, dicendo a Garrosh, magari vuoi tenerla chiusa te, e poi lancio una maledizione a questo, sì, e due Eldritch Blast. Quindi uno fa 13 e l'altro fa 23 per colpire. Il 13 mi sa che colpisce. Tutte e due? Sì, tutte e due. Però devo usare i dati più spesso. Quindi il primo fa 13 danni, il secondo fa 12. Ok, 13 più 12 fa, perfetto, la sua fiamma è sempre fioca e adesso, posso usare il mio movimento per scappare via da questa porta? Sì, senz'altro. Wonderful. Ok. Ok. Ora, come cazzo si chiama questo? Cazzo sta. Perfetto. Che è successo? Stavo cercando una cosa che non mi ricordavo, ma direi che... Esatto. Ok. Dall'oscurità di fronte a voi, quindi da nord, vedete provenire una saetta di energia, un fulmine che si schianta contro il barbaro e da lì si propaga contro i suoi due. Cioè, da dove cazzo arriva sto fulmine? Dal salone, alla direzione dove c'è la statua. Atanas, Garrosh e Sfortuna mi fanno un tiro salvezza sulla destrezza. No, avete il più uno della luce, ma non il mio più tre. Ma non il suo più tre, che lui è furbescamente scappato il più lontano possibile per non prendersi. Non è che furbescamente. Per una volta avevo l'iniziativa alta, ho provato ad attaccare 24. Il tesco, trovarne altri. Però. Devo usare i dadi più spessi. 16. Ok, Garrosh lo tiro e lo supera, Sfortuna lo supera, Atanas no, quindi Atanas prende 42 danni da fulmine e gli altri due la metà. Ora mi farei toccare dall'angelo, torno indietro, non avrei cambiato idea. Il teschio che è attaccato, Vezius, non sono Vezius, ti spara dopo due raggi infuocati. La tua classe armatura è... Ma io ho resistenza al fuoco. Bel tentativo. 17. I soliti 36, 8 danni di fuoco. 8 danni. Molto bene. E questo era lui. E Atanas. 8 danni. mi muovo avanti. Fin dove? È un movimento, quello che... Tutto quello che puoi. Sì, 30 piedi. Arrivi qua. E sparo due frecce al teschio. Ok. Faccio... faccio 25 e 23. Colpi. Sono un arro. 9 più 6, 15 danni. E il teschio si schianta al suolo. Con la paglia, raga. Poi. Devo fare sempre tutto io qua. Che fortuna che Adanas c'è. Ok. Pat, percepisci il rumore della fiamma del teschio allontanarsi e nel frattempo vedete che questa porta si apre magicamente come se spinta da una forza invisibile. Mio Dio, che cosa orribile. Disegno. Okay. Come spinto è una cosa invisibile. Vabbè, il cat abbiamo capito, dai. Non ti preoccupare. Sì, ma questo lo vedono chiaramente Atanas e Vardistra. Vedete che si apre questa porta e che in mezzo al corridoio c'è l'altro teschietto. E questo era lui. La palla di fuoco sta per avvenire. Dopodiché, allo stesso modo, si apre anche questa porta e questo qui esce ridacchiando. Garrosh. Che prova anche lui ad attaccarlo. Stando. No, 14. Ok. Vardistran. Ok. Allora, vado di Acqua Santa. Ok, annaffi il tizio. E poi vado contro l'altro sopra. 5, 10. Con un movimento arrivi fino a qua. Va bene, sono pronto. Con la tua azione fai altro? Ho fatto la cosa, no? Quella versare così l'acqua santa può contare come interazione gratuita con un oggetto, dato che non è che l'hai dovuta bere. Va bene, allora sparo un giavellotto. Vai. Se giavellotti portati dietro e mai utilizzati. Perché no? Siamo verso la fine della BAM! Ti rendi conto che ha avuto per tutta la campagna questa sacca con dei giavellotti e adesso hanno aiuto tutti. Giulio, bam, ne ho fatto 20 per colpire. Quello, dai, no? Sì. Scusa, purtroppo che non ho messo il sono ben 3 danni. Oh. Non posso lanciarne 2, no? Non penso ci sia nessuno. Finché l'unico limite. No. Ne puoi lanciare quanti attacchi hai? Se hai 2 attacchi, puoi lanciarne 2. Dici sì? Sì. Allora tiro un altro. Beh, questo fa solo 8, però colpire, quindi vola. Si vede che sei arrugginito con i giavellotti. Vai. Ok, quanto hai fatto? No, 8 per colpire, Kate è passato. Cioè, hai tirato 1. 4 più 4? Io sono più 4 al giavellotto. Più 3 di attacco base, più 1 di destrezza. In realtà dovrei avere di più effetti. Più 4, no, ma io di destrezza ho 0. Più 4, a Cattar, perché più 1 di destrezza? Magari sono un paladino, no? Scusa. Quindi mi hai tipo esaltato, tipo, aspetta, più 4 è troppo basso, poi, no, giusto. Ma magari le armi a lancio si può usare la forza. Don't think so. Ma buona idea. Magari, se no io lo userei con l'arco. No, c'avevo il mio spadone, ci attaccavo una catena al mio spadone, la ritiravo. Scusa, le asce da lancio, si può usare anche la forza per lanciarle? No. Vabbè, non ti preoccupare. Vai con sta palla di fuoco. Vabbè, se si tiene. Però aspetta, c'è qua. Sì, lascia. Il problema è Giulio, che se ne tirano entrambi la palla di fuoco. Se le becca entrambe. Io forse no, non lo so, però. Sì, perché le armi da lancio, che indicano la proprietà prone, le puoi lanciare con, se fossi, lo puoi usare lo stesso modificatore che usi per fare l'attacco in corpo a corpo. Ad esempio, se lanci una ascia, usi la forza, e se lanci una dagger, il pugnale, puoi usare o la forza o la destrezza, perché la dagger hanno anche la finestra. Ma quindi il giavellotto no, ma l'ascia sì? Il giavellotto mi sa che puoi usare entrambi. Come si chiama? Javelin? Javelin. Range Throne. Sembrerebbe che danni, puoi usare anche con forza. Anche coi danni posso fare? Perché con l'arco serve la destrezza? Perché l'arco non è una throne weapon, se non sbaglio. Che cosa è no, no, non è throne. No, ma io penso che intenda canta... Puoi lanciare le frecce a mano, Giulio. Posso io penso che intenda canta che tu quello lì io lo potrei usare anche per combattere in quel senso lì, capito? Corpo a corpo. Penso che sia questo il punto. Quello lo puoi fare, ma però lo puoi anche lanciare. E andando a leggere la descrizione di arma da lancio, Ah, è rilevante perché io avrei un altro più 5, andrei a 13. Secondo me con l'arco avrebbe senso usare la destrezza per colpire e forza per i danni. È troppo complicato. Sarebbe più realistico, però. La forza per i danni, boh. Fai più male, più sei preciso. Vabbè. Solo che allora io sommo anche i danni della forza. La forza, gli archi sono a forza. No, perché con, dice, le armi che hanno la proprietà da lancio usano, stesso, usano per il corpo a corpo. Vabbè. Quindi se un'ascia al modificatore ha la proprietà da lancio, si lancia con forza, a meno che non abbia anche la proprietà finesse, e quindi puoi scegliere tra la forza e la destrezza. Il giavellotto non ha la proprietà finesse, e questa cosa mi stupisce, quindi si può usare solo la forza col giavellotto. Però aspetta, però è range. Secondo me no. Però dice, bello, ma... Vabbè. Dove lo stai guardando? Allora, sto guardando su Roll20, sul sito di Roll20 ci sono tutte le definizioni. E... Sì. Sembra così, vabbè. Usa la forza per lanciare il giavellotto. Allora aggiungo un altro più 5 e diventa 13. Colpito. Ma aggiungo anche i danni della forza? Sì. Allora. Aspetta, no, range. Sì, non c'è nessun problema. Salute. Ma com'è che sei diventato così? Hai paura che moriamo? No, prima, ed evitiamo quindi una morte ancora più dolorosa e questo sicuramente non è così che sopravviverete. Ma allora, allora io a quello prima, che erano 3 danni, aggiungevo 5 di forza, diventavano 8 danni. E diventavano 8 danni con a quale? Quello che comunque ha colpito? Sì, io ho fatto 3 di danno di dado, ma se ci aggiungo la forza e ho 5 in più, quindi sono... Diventano 8, giusto? Allora questo colpisco e tiro il D6, va bene. 5 più 5, 10. Quasi quasi sparo a sto punto. Ok. Questo era Valdistran, sfortuna. Io mi affaccio dall'angolino, uso la mia azione bonus per rindirizzare la maledizione e tiro altri 2 Eldritch Blast. Ok. Quello che è in corpo a corpo con Garrosh. Ma la maledizione che cosa fa? Aggiunge un D6 di danno. E succede anche qualcosa quando muoiono, quando hanno extra sopra? Posso farla saltare quando muoiono senza lanciare un altro incantesimo. Mm-hmm. 15 e 22. Colpiscono. Il primo fa 10. T'ho perso per un pezzo. 10. Il primo 15, il secondo 10. Ah, ok. Ah, ok, avevi perso anche tu allora. E anche questo si sfracella al suolo. Perché non me lo fa? Ecco, qua. X, qui. E questo era 2. Ok. Ah, già ammazzato. Wow. Sì, questa era sfortuna. Molto bene. Oh, sfortuna è morto, bene. Tu, Arce, hai sentito che il tuo dei grugniti familiari ci sono avvicinati e hai sentito qualcuno che lanciava delle aste che si infrangevano contro un bersaglio. Sì. Okay. Piccolo. Il rumore del fuoco è sparito? Non è ancora sparito, ma è più lontano rispetto a prima. E a che distanza lo sento io? Intuisci che sta almeno ad una trentina di piedi, forse di più. Vai, darò il play finché non sento il rumore del fuoco scomparso. No, mica addosso, no? No, immaginati tu la tua scena, insomma, sai che c'è qualcosa che ti spaventa nell'altra stanza. E lo sento però affievolirsi, lo sento andare via. Lo senti che si allontana. Magari provi. Allora magari provo un po' ad aprire la porta e a mettere fuori la testolina, tipo una troccolo che mette il dito nell'acqua. Esatto. Dai una sbirciatina, vedi, magari senza vedere, avere il contatto diretto, vedi l'ombra della luce che fa il teschio e un'altra luce che invece non è generata dalle sue fiamme, ma riconosci quella dell'incantesimo luce e vedi che appunto per terra sono i giavellotti che sono stati usati per colpire il teschio. Attenzione! Riconosci quelli che aveva il tuo amico Vardistan. Con un po' di laggare sopra. Ho sentito laggare, quindi a parte i giavellotti illuminati non vedo niente. Vedi il teschio, Arci? Lo vedo il teschio. Sì. A che distanza? Anche a me. Forse. 30 piedi. Mi hai sentito? Sì. E lo vedo che sta focussando in teoria Vardistra, nel senso vedo che non mi sta cagando. Mi volta le spalle se le avesse. Ok. Lì mi devi un pochino dire tu, nel senso la mia paura, come è da intendersi, del tipo questo qua è girato, mm-hmm. Io temo il fuoco, ma vedo che sta colpendo i miei amici, gli sparo da dietro, il ghiaccio a distanza di sicurezza, visto che sono a 30 piedi, o appena lo vedo vado giù di testa e scappo, cioè nel senso... Allora, cioè è una paura razionale o una paura tipo fobia? Ecco. Chiaro che è tipo una fobia, però ci sono diversi gradi e tu puoi provare appunto cercando magari di razionalizzare, di cercare di avere un effetto, soprattutto quando magari sei in una situazione di relativa sicurezza, nel senso che se fosse di fronte a te quando spalanchi la porta, e allora chiaro che ti prende un colpo e non agisci, come dire, in maniera razionale. Però appunto se tu hai paura del fuoco se hai un secchio d'acqua in mano, la cosa, tra virgolette, logica da fare è berla. L'avvocata è berla, terrorizzato, esatto. Non ha paura del fuoco, è terrorizzato, è un po' diverso. Sì. Ma in questo caso è laggiù in fondo, quindi c'è un po' di tolleranza. Okay. Sì. Cioè, può non scappare urlando, probabilmente. Vabbè, fare un tiro così, di casa. Volontà, scusa. Sì, può essere. Gli sparo la... Facile da sperarci, da gestire. Gli sparo l'azione di... Come si chiama? Il cono di ghiaccio e poi telo. E poi torno via dalla porta. Io sparerei i mastini e scapperei. banalmente, aiuto! Magari lo spari chiudendo gli occhi. No, quanto i mastini avevi evocati la volta scorsa? No. Stiamo tutti aspettando quel momento. Quanti di allora, 8 catta? Cono gelato. Sembra che fosse 8 di 8. Lo vuoi piccolo, grande, medio? Grande. Tre gusti. Puffo tre e gusti. Terroncino. No, in realtà... Non so, come lo prenderei? Cosa fa catta? 6 di 8, 8 di 8? Fa limone, cioccolato e mango. Quanti catta? 8. Ok, ed a 30 piedi ci arriva, no? L'avevo appena chiuso. Arrivo. Secondo me investi anche Vez. Vediamo. Beh, gli fa bene un po' di... gli fa bene un po' di freddo. Calma i bollenti spiriti. Allora, un po' di ghiaccio sulle ferite. Un cono di 60 piedi. Altro che se lo prendi. Posso provare? No, a me è una fortuna. A non colpire Vez, catta, sì. Ma non puoi fare qualcosa. È abbastanza impossibile. Perché? Lo però sparo ci sta, nel senso che... Che in fondo, perché non uccidervi? Ah, diciamo così, in realtà catta, se lo direziono tutto dalla parte per beccarlo con il limite del cono, riuscirei a non beccare Vez. In realtà è vero, ci riuscireste. E soprattutto però, la cosa a meno che esatto, che tu non mi dica dei che teschi lo spaventato, questa è la cosa spaventato dalla cosa, io non abbia il esatto, modo di prenderlo. Magari per... infatti potrebbe essere quello. Fammi una prova di volontà. Di volontà, cazzo. Considera che la CD è 47. Cosa vuol dire di volontà, Katta, che non c'è più la volontà? Saggezza. Hai ragione, non c'è più la saggezza. No, tu falla di volontà, vedrai. Beh, Vez. Comunque, scusa, Katta, non hai la forma di un cono. Cioè, c'è la palla di fuoco, non c'è un cono. Katta ha fatto 12 di dado più 7 di tiro salvezza, 19. Più uno della luce. Più uno della luce. 20. Okay, no, riesci. È un tiro salvezza, però. Riesci ad evitare. Quindi, no, ma io voglio colpire Vez, quindi ci riesco. Ah, sì, ci riesci tranquillamente. Oh, sì. Scherzo, Vezzino, vedi che ti voglio bene. Colpisco Vez e evito. Oh, vada che no! 4, 5, 6, 7, 8. Dov'è il cono? Dovrei googlarlo. Quanto hai fatto? 37 danni da gelo. CD? CD di ROM. No, aspetta, CD... Quella dei tuoi incantesi. Sarà 15, perché ho... Cos'era? 8 più la saggezza... Più proficiency più saggezza. 8 più 4, 12, più 3, esatto, 15. Sono danni da freddo, magari. Sì, è immune. Sembrerebbe proprio di sì. Ah, veramente? Un teschio di fuoco immune ai danni da freddo? Eh beh, si tiene caldo. Bene. Faccia di arci. Cos'è che è capito? Dio. Sì, è caldo. Che... Sarebbe stato ancora più divertente se Vez fosse stato colpito dalla cosa. Sì, molto. Beh, a sto punto, esatto, a sto punto, catta, fammi colpire Vez almeno. Comunque, Arci, non giocare i Pokémon non ti hanno insegnato nulla. Non si fa il ghiaccio contro il fuoco. Ghiaccio debole contro. qua ghiaccio, modo di dire, qua su D&D acqua, ghiaccio, tutto uguale, cioè. No, evidentemente no. L'acqua è forte contro il fuoco, ma il ghiaccio no, il ghiaccio le prende. Ok, questo era un arce estemporaneo ora... che si è infilato, esatto, nell'iniziativa, e adesso ti caghi addosso perché lui si gira e ti vede. Eh no, io sono già scappato, sono già scappato. Si è nascosto il cono. E riesco dalla porta. Va bene, e questo era un pat che almeno tirami l'iniziativa, così so dove siamo nel tour. Allora, l'iniziativa, un più 2, ho fatto un bel 14 più 2, 16. Ok, perfetto. Devo mettere un attimo in carica il cellulare, quindi per un po' loggo il Discord senza il mio faccione. Mm-hmm. Oh, occhi d'occhi. Bella. Dopo. Ciao Archi, buonanotte. No, tra un'ora è l'ora dell'insalata. L'ora dell'insalata di mezzanotte. È sempre l'ora dell'insalata. È sempre. Solo insalata. Ok, Atanas. Eccomi. Mi muovo di un movimento verso il teschio. E poi lancio le frecce come giavellotti. E poi lancio le frecce come giavellotti. Faccio quindi... È balistato. Vorresti dei giavellotti adesso, Lancerò le frecce. Raccogli i giavellotti che sono a terra, Giulio, vai lanciali. No, io comunque me la cavo anche con una destrezza. Faccio un 20, cos'è? 24 e un 13. Colpito. E sono 12 danni. 12. Nice. Questo era... Qua. Ok. No, se il prossimo turno non mi fa cose strane, gli meno. No, che cazzo faccio? Oh mio Dio! Ok, lui svolazza all'indietro. Arriva qua. Bastardo. Toccherà. Merda. Sgancerà una palletta di fuoco proprio su amichetti. Bene, tiro salvezza su destrezza. Qui ci vuole un buon tiro. Cioè fa una palla di fuoco? Sì. Non erano finiti, bastardi. Che avete contato? Ah, non so se usare 19 più 4 più 1 più 3. Però direi che 20-27. Forse meglio se uso la mia inspiration. Ho tirato veramente male. 4 ho fatto. Dai, uso la mia inspiration. Vai. Porca miseria, no. Ladra. Vabbè, niente. Vacca boia, che tiro. Ne avevo fatto tipo 8. Tra l'altro ho fatto 1, quindi a posto. Ho sprecato anche l'inspiration. Vacca boia, ti becchi 38 danni. Se guarda caso, se avessi fatto il mio cono, erano 37. Bel modo di sprecare l'inspiration, bravo. 38 danni, quindi meno 13, 23, 25. Su 8 di 6 ho fatto preso 8 prima, 3, 5 e 3, 6. Sì, sì. 25, 3 e 2. 60. 32, quindi, scusa un attimo, dopo ci sono un teschio di fatto rimasto. 36. Sì, che adesso hai sentito che si è avvicinato verso la tua direzione. Io ne becco 19. Tu lag di mezzo, sì. Vabbè, sono 30 punti feriti. Io sono? Tu a 40... No, tu a 37. Beh, dai, tra poco okay. Dovrebbe appena finito di festeggiare, dovrebbe esserci anche Sceo. Esatto, Sceo. Che corre, corre, Batman, Batman. Perché l'Inter ha vinto. 1-0. Vabbè, a questo punto Sceo può anche smettere di seguire 5. Le partite d'ora in poi. Sceo, beh, si vorrà godere il... Skriniar al 54esimo. Si vorrà godere la... lo scudetto partita per partita. Ok, come un solo uomo i vostri amici si precipitano all'interno. Molto comodo, spero che gli arrivi una palla di fuoco dall'Arcanolot che è nascosta una statua. Adesso Giulio entro io e sparo un cono di freddo su tutti i nostri amici. ti bacio in bocca se lo fai. Se avete fatto bene il vostro lavoro, in teoria dovrebbero averli finiti. No, ma nella realtà è... Cioè, quando ci vediamo la prossima volta, non posso resistere alla seduzione di Giulio. Catta. Ti capisco. Quanto vaccinato, posso anche correre il rischio. Non ci avevo pensato. Allora, ok. Loro vanno dritti, incuranti del pericolo. Questi invece vanno a piedoni perché non possono volare. Ok, Vardistran. Scusa, lo zombie scheletro vola. Cioè, lo zombie, no, il golem di carne. Il golem di carne si può gettare tranquillamente dal piano rialzato, che tanto... Okay. Vado avanti. È resistente ai danni, credo. No, forse no. Sì? Vado avanti più che posso e sparo i giavellotti. Spero che arrivi almeno un fulmine. Cioè, io mi sono beccato un fulmine a 42 anni. Che è arrivato, contento. Primo che giavellotto 19 Garro 11 danni. Congratulazioni, no. Sceo. Congratulazioni, grazie, grazie. Bello scudetto, bravo. Grazie, grazie. Ho giocato bene, ho giocato bene. 11 danni. Ne vuoi un altro, Catta? Te lo dico subito, se ne voglio un altro. No, non ne voglio un altro. Spam, oh, Sceo. Spazzato via dai giavellotti, la nuova tecnica. Dipende, c'è appunto, c'è Garrosh di fianco a te, puoi dare a lui il secondo. No, sparo. Dopo vado a dare la... Sì. Mi fanno bene, anche da uomo. Sì, giavellotto viene al costato. È passato il giavellotto. Bene, ciao Sceo. Ui. Pazza Iter Amala. Intercampione, guarda, oh, comunque c'è lui, c'è il ritmo, c'è il tifoso peggiore. No, gli ho messo io comunque. Tra l'altro, Sceo, però ci sono anche, c'è anche tre uomini e una gamba. Potresti è fare vero. Giacomo con la maglia col pigiama di sforza. Cazzo, è vero. quella di Lukaku era finita. Bene, Pat, senti che la fiamma che è più dura dell'altra stanza si estingue. E le tenebre ricalano insieme al silenzio. Beh, c'è la luce di Vez. C'è la luce, è vero. Divampa la luce della speranza del paladino. Io adesso accendo una torcia. Rientro nella stanza e dico: complimenti, ragazzi. Guardalo che ti venuto. Oh, rega, bordello. Io devo. Fare sia questo qua l'acqua santa che a quello giù. Quello giù l'hai già fatto. Non quell'altro. Un altro, cioè abbiamo tutti l'acqua santa. E raga, ma perché state facendo un fight così presto? Cioè, Arci. Ah, Arci non ha messo la telecamera, così non lo vedete. Ha appena messo in carica il cellulare, Sceo. Coglioni. Ok, quello di sotto può venire spruzzato da sfortuna volendo, e tu puoi spruzzare quello di sopra. Sì, io spruzzo quello di sopra. Anche perché quello di sotto non so che esiste. Sì, lo sappiamo. Cioè, non so che lo sappiamo tutti come spruzzi. Vorrei vedere dalle feritoie a sto punto. Controllo la situazione dalle feritoie. Sì. Allora io gli sparo. E vedo i Regaz che assaltano la statua. Vedi la seconda però non è uscito, vero? Kevin non è sceso, bastardo. Sì, sì, adesso mi stavo muovendo. Ah, perfetto. Ma è ingittata. Ecco, certo che è ingittata il mio. Bastardo. Ma adesso non è in una zona illuminata. Chiedo a Varistram o a Sfortuna di fare luce su una freccia. Non posso fare luce io. Ho solo i capelli che fanno luce. Non posso fare ok, luce. Chiedo sfortuna di fare luce su una freccia. Ma io sono lontano in un'altra stanza. Mappa dei capelli. Guarda, cioè, verso sfortuna, gli dico di far luce. Guarda come si è agitata. Giulio. Scendi e valla a uccidere, dai, su, non rompere. Athanas va verso sfortuna. Garrosh, piccolo riassunto per te magari, poverino. Ma dopo Vardista non posso fare io l'azione. Abbiamo sassato tre teschi, Sheo. Non abbiamo beccato il golem, fortunatamente. Ottimo. Quindi sono entrati gli altri, a quanto pare. Cosa vuoi fare, sfortuna? Io volevo fare una silent image di Strahd al centro della piazza. Così? Per creare caos? Ma perché no? Così del botto senza senso. Ci sta. Come? Aspetta, è per testare la fedeltà dell'altro gruppo. Così vediamo chi si prostra. Mi sono rimasto male quando ci hanno bullizzati. Questa va bene. Benissimo. Ovvio, è quella la vera immagine di Strahd. No. Bucefalo. Ok. E poi volevo andare via dentro la stanza. Ok, mentre torni dentro incontri Athanas che ti dice: oh, spacciami una freccia luminosa. Fammi luce sulla freccia. Quindi il prossimo turno gli farò luce sulla freccia e così se ne andrà da Varistan perché posso tenerne solo una. Ok. Bene, dopodiché vedete... No, puoi farne quante ne vuoi, scusa. Ah, ok, posso farne quante ne vuoi. È un counter di merda, Marco. Sì, sì, hai ragione. Dura un'ora. Quindi per aggiornarmi velocemente, noi siamo entrati il lato ovest e siamo andati verso esatto, i teschi. Abbiamo ucciso i teschi e abbiamo permesso agli altri di andare avanti. Ok, e loro stanno entrando nella centrale verso la stanza. E ora no, nel il senso, gol sta provando. Nel senso, catta che abbiamo preso quella direzione. Ah, i gol sono diventati due. È entrato nella montagna e è moltiplicato. Ah, sono diventati due. E adesso porterò. Vai verso sinistra. Nella mappa mi sono diventati due e stanno nuotando nella roccia. Ah, ma posso aprire Roll 20, è vero. Vedi, è entrato nella roccia, si è moltiplicato e ora uscirà. Ah, cazzo. Troppo alle vostre spalle. E detto questo, adesso proverò ad andare al piano di sotto. Vediamo se funziona. Vez, ti ho mandato la vera immagine del golem d'ambra. Non c'è bisogno che la condividi, abbiamo già capito tutto. Ovvio. Ok. Dove siete spariti? Ah, siete tutti là, perfetto. Allora, se io incollo loro, ci siamo tutti. Quindi, si forma l'immagine di Strahd nel mezzo della stanza. E coglie molto di sorpresa i poveri Irina e Casimir. Nel frattempo si vedete che i quattro dell'Apocalisse qua sono entrati dal retro della statua. E dopo qualche istante si compare dal nulla. Ma adesso che ci penso, non è proprio il nulla. La spada fiammeggiante dell'angelo fa una luce intensa intorno a sé, per cui vedete che dalle ombre che proietta, proietta l'ombra dell'occupante della statua, che sparisce dopo qualche istante. Dopo un attimo di sbigottimento si sente il rumore provenire da questo punto, di rumore di porte che si aprono. E adesso tornerò su da voi, perché voi siete ancora su. Potrebbe essere quanto scomodo questa alternanza, speriamo che regga. Ok. Quindi, rumore di porte, scusa, che mi sono perso. Che si aprono. Che si aprono. Quindi voi siete qua nella vostra stanzina, e al caldo e al sicuro. Avete ritrovato Patk e Reis, annaffiato i teschi, e c'è una porta chiusa di fronte a voi. Io sparo la freccia luminosa dalle feritoie verso dove immagino possa essere Kevin, non per colpirlo, ma per illuminare la zona, tipo tracciante, no? Non per colpirlo, che bravo. Per colpirlo, per ora. No, esatto, il primo proiettile tracciante serve per illuminare il bersaglio, quelli dopo invece. Va bene, in che zona lo vuoi lanciare? Qui va bene? L'angelo fa luce, quindi diciamo nell'estremità inferiore della luce della spada dell'angelo. Sì, lì va bene. Ok, mettiamoci un qualcosa. Dov'è? Se io volessi i miei... Mezzo, quante insalate hai mangiato poi? Quella che hai visto? Solo una? Ah... Oddio, ci sono bestie strane. Sì, speravo fossero gli oggetti, invece sono qua, the camp, perfetto. Vuoi che non ci sia un focarello? No, cosa c'è stai un. Stai facendo? Volevo cercare l'immagine, ecco, fire pit. Ah, grazie. Bravo Marco. Suppongo l'abbia messo Marco. Sì. No, sono cosa stato io. State facendo? Ha messo la luce qua. Ah. E... Adesso... Perfetto. Ah, adesso sì, eh? Sì, adesso è tutta un'altra cosa. Scusa. Ma scusa, perché molto tu hai sparato una freccia infuocata, Giulio, cosa che hai fatto? Sì. Una freccia con una luce freccia sopra. Illuminata. Vedi, cioè, ha fatto anche il cerchietto con la luce. Okay. Esatto. Ok, qualcun altro fa qualcos'altro? Ma si potrà tirare su, cioè l'illusion di Marco? Cosa tiriamo? Noi non la vediamo in teoria. Ora sì. L'illusione. Sì, è stata illuminata dalla freccia di Athanas. Per le illusioni si fa, se tu dubiti della sua, come dire, veridicità, dovrebbe essere un tiro di intelligenza. Sì, intelligenza e difficoltà 16. È un tiro salvezza. La possibilità... C'è la possibilità che il nostro compagno ci dica che è una sua illusione? No. E tra l'altro, non l'ho neanche visto lanciargliela, quindi è giusto che io tiri. Sì. Quindi intelligenza pura? Intelligenza? No, un tiro salvezza, no. Quindi 1 più 3 ho comunque. Quindi ho meno 1. Sì, beh, 16, wow. Allora, se usate la vostra azione per esaminare l'immagine, sì. Sì, è una check di investigation contro la classe di difficoltà. La prova di investigation. Sono fortissimo in investigation. Disse prima di fallire miseramente. Investigation ho fatto 6. Dovete usare la vostra azione per dubitare della... No, sti cazzi, no, non mi interessa. Ma io non sto guardando, quindi no. Ah, io sì. Faccio un bel investigation 6. Catta? Sì? Fai qualcosa? Cosa hai detto? Posso tirare anch'io? Sì? Tu non la stai guardando. Cioè ti sporgi per le feritoie. Sì, se mi dici... Mi metto a guardare. Beh, sono tutti lì che guardano, tranne Sceo. In verità c'è solo Vardistran e io che ho lanciato una freccia, però non sto guardando. Io però scuro visione. Scusami, lanci una freccia illuminata. Però ho detto adesso a Mazzara Kevin. Quindi... Io però scuro visione, delle due ci sta che guardi, no? Giulio ha tirato una freccia. Puoi ha detto, ah no, è Strad, non è Kevin, chi se ne frega, se n'è andato. Beh, da una feritoia posso. Ci arrivo, sono troppo nano. Sì, sì, ci arrivi tranquillamente. È molto. È lunga e stretta, quindi non è quello. Posso il tirare un perception invece che un investigation? Ah, sì, certo. Come certo? Vabbè, che tanto faccio cagare. Cioè, non dico per dubitare dell'illusione. Se fai un perception, fai un perception. L'illusione per te rimane illudente. Beh, faccio un perception, sì, per vedere quando Giulio tira la freccia cosa vedo. Che però faccio un tiro di merda, quindi faccio 6 più 7, 13. Ok, vedi i vostri alleati che stanno assaltando la statua, le porte che prima erano chiuse qua di fianco si sono aperte, non vedete nessuno però che le ha aperte o nessuno che esce dall'interno, e vedete però che la luce della luce della freccia e la luce vengono riflesse da qualcosa che c'è all'interno di questa stanza. Specchi d'ambra? No, è più diffusa come riflessione, tipo l'effetto della palla della discoteca. Ma non ho capito dove, cioè sul pavimento, non ho qua. Capito c'è una porta che si è aperta, questa come porta, una palla di fuoco da discoteca, esatto, bello la fare. E dall'interno vedete che viene riflessa la luce che gli arriva dentro, viene riflessa in maniera molto caleidoscopica. Oh, bravo. Bene. Così. Bravo. Vabbè, è il panico allora per me. Ma domanda, prima avevamo un piano, cioè sconfitti i teschi andiamo giù, avevamo un piano, avevate già deciso qualcosa No. Ce l'abbiamo. Ucciderli tutti. Macello adesso. Per me ovviamente è Strad, quindi, giusto? I quattro dell'Apocalisse entrano dentro e gli altri due li seguono. Riesco a sparare almeno una volta a Kevin, basta. Sì, certo. Ma a distanza siderale, Giulio, saranno a 200 metri. Quanti piedi sono? Quindi loro ignorano tutti i Strad. Qual è la gittata? Loro scappano poi, via. Scusami, mi vuoi sparare così? Cioè, perché? È a 70 piedi quando lo puoi colpire. Non lo ucciderò alle spalle, ma solo da lontano. No, poi tipo gli hai detto una cosa. No, scusate, mi sono perso perché avevo la connessione che oggi fa. Può sempre dire che mirava Strad e che per sbaglio l'ha beccato. L'ha mancato. 70 piedi? Sì. Guarda che carco hai. Allora perfettamente... Esatto, 150-600, quindi è ancora il range che è corto. Perfetto. Mi faccio ben due attacchini. Due freccine. Siete fuori controllo, cazzo. Tra te e Marco, porca troia. Che merda. Sì. Io non ho fatto niente, non ho attaccato nessuno. Hai sparato lo strato in mezzo alla stanza, ma perché? Era divertente. Che merda. 16 e 15. Per colpire. Sì. 16 colpisce. Crede anche lui nella luce, però. Oh! Oh! 16 colpisce. Ci ho provato. Non so più da che parte stare. Allora, raga, è durissimo. Che palle. Che merda di tiri che ho fatto. Sì. Quante ne hai tirato? 3 danni. Ok. Vabbè, non è che possiamo vedere quello che scrivi, vero? Adesso gli sparo una palla di fuoco, Casimir, adesso. Vabbè, ho scritto 3 danni, non è che sia un gran segreto. Non userò Second Wind, nonostante ne abbiamo potrebbe essere utile. Giulio, usa Action Surge, scusa. Sì, diceva ma ah, non l'avevi già usato? Ah no, l'hai recuperato col riposo breve, esatto. No, è probabile che incontriamo qualcuno per cui sia più utile tenerselo, quindi. Ad esempio, i vostri amici tirato, vedete che fuoco. Hai tirato anche questa con luce, quindi. No, sì, quindi no. Adesso c'è. Ah come, sì, non erano tutte, non era tutta la parete. Boh, ok, no, va bene. No, meglio. Va bene. Non lo so. Rega, non so se luce può illuminare tutte le frecce della faretra o solo una. Rega, quello è un golem. Sì, esatto. Vedete il vostro amico golem di prima che scende, scompare dalla fine delle scale. Perché non posso selezionare? Seleziono. Se ci va di culo il golem X2. No, sì, lui vedete che compare da qua giù e va verso dove sono scappati i vostri amici per inseguirli. Ottimo lavoro. Se non ci fosse strada lì in mezzo, mi verrebbe da dire che è il momento di andare giù. Vabbè, dai, faccio un'investigation sull'immagine. Perché abbiamo questo piano da finire di esplorare? Ho fatto 17, 18. 22 16 test di difficoltà. Fa così tanto. Ok, capisci che è un'illusione. Perché ho su investigazione ho la competenza. È un investigatore, non lo sapevi? Ho sempre tirato investigazione. No, vabbè, seriamente. Giulio. È vero. Ho sempre super detective Giulio. Ho anche intelligenza 12 per avere il più 1. Va bene. Tra l'altro, non è che tiro investigazione, allora, l'ho tirato un sacco di volte. Io dico, ragazzi, è finita. Il conte Strad è arrivato. E sì, dico, purtroppo non è Strad, è un'immagine. Un'immagine, dici? Ma perché stai tirando? Chi avrebbe mai visto un'immagine? Ma che cosa stavi facendo prima? Chi hai voluto colpire? Non so se hai visto che ha preso cosa. Tu eri qua che hai visto tutto, perché le frecce erano illuminate. No, aspetta, questa cosa la volevo chiarire. Luce illumina una sola freccia o tutte le frecce della freccia? Io ho chiesto solo la prima freccia, però se me la fate su tutte io non mi oppongo alla cosa. E c'è tutti un oggetto che non è più grande di 10 piedi. La domanda è se può fare... Un oggetto, ha detto. In realtà lui ha toccato la faretra, c'è illuminata la faretra ma non le frecce, peccato. No, esatto, un oggetto. Perché prima la freccia in mano, quando gli ho detto illumina questa. Un oggetto è la chiave, dai, un oggetto. La prima per forza è illuminata. Allora, purtroppo Coso non ha una un lampione sconficcato. Sarebbe stato divertente, però. Sì, sarebbe stato molto divertente. Posso continuare a castare? No, aspetta, allora, aspetta. Allora, quindi lui dice così, io dico cosa intendi dire che è un'immagine? E poi smettila con questa tua... C'è il golem! Smettila con questa tua faida con Casimir, non è questo il momento di fare dei giochi da bambini? È sempre il momento. Cosa intendi che è un'immagine? È un'illusione, stai zitto che c'è il golem. Cosa? Una illuche? Un'illusione. Il golem e chi prosegue verso forse lanciata, forse lanciata dagli incantatori presenti sulla torre, in effetti. Ho fatto abbastanza alto con Investigation per avere l'idea che la possa aver lanciata, sfortuna. Non credo serva l'Investigation per quello, però. Va bene, comunque se hai ragione... La torre. In effetti il conte, okay. Comunque in effetti il conte di solito si fa palese in modo diverso. Speriamo che tu abbia ragione. Forse potrebbe essere una buona occasione per scendere giù al piano di sotto. Che ne dite? No, c'è il golem, ma aspettiamo un attimo che si sia allontanato e che si sia scontrato con... No, vabbè, ok, proprio perché sta andando su e sta lasciando libero il campo a quel punto. Vabbè, possiamo continuare a esplorare qua, tipo cosa c'è dietro quella porta lì? Chi lo sa? Ok, mentre Vardi, Stran e Altanas fanno questo dialogo, gli altri cosa fanno? Sono d'accordo, anch'io voglio aprire la porta. Vado ad aprire la porta. Ok, la porta che dici tu, Giulio, è quella su. Dove sono io? No? Sì. Esatto. Ok, Garrosh va ad aprire questa porta. Provo ad aprirla con le buone, se non si apre. Vabbè, guardo Garrosh aprire la porta. Allontanandomi. Ricordo dell'ultima volta che lui ha cercato di aprire una porta. No, ok, qua va bene. Non lo so, no, ancora un po' indietro. Ok, qua. Pat, che volevi fare qualcos'altro? Tu Vez, le tue cure le hai finite? Le ho finito tutto, raga. No, sì, abbiamo finito tutto. No, in realtà non del tutto. Potenzialmente ne potrei usare una, perché ho comunque dato un secondo livello. Però dai, non lascio andare Garrosh da solo, anche se sono a 2 HP, vado vicino, metto qua Katta. No, ma è solo per aprire la porta, poi una volta aperta la porta lo raggiungo. Noi non sappiamo cosa ci sia dall'altra parte, mettimi qua Katta, 4 quadretti indietro a Sceo. Come sono messo io, Giulio? Non mi ricordo, dovrei essere più o meno 106. No, ho messo Patrick, sanguinante morente o c'è ancora... No, anzi no, ho detto una cagata. 13? Sì, sì, 108. Patrick è sempre 61. Vabbè, 61, 2 HP. Sì, considera che io sono 37 e Giulio 30. Sì. Chiama, vi hanno smazzolati. Ho fatto una pala di fuoco mentre tu giocavi. Sì, io più che altro ho preso un fulmine da 42 danni dalla statua. E quindi è un bene che io non ci fossi, così non ho preso quei danni, ora sono quasi. Sì, in realtà hai combattuto lo stesso, però non l'hai preso quella pala di fuoco lì, che è stata disastrosa. Quindi mi dite che combatto me. Ciao, raga, c'è un'altra partita. No, più che altro abbiamo perso il master, ho le mie impressioni. Raga, autodidatta. Oh, guardate lo specchio. Magari spoileriamo. Autogestione. Io sono salito a livello 15. Pazzesco. Ecco, l'hai evocato. In questo piccolo periodo di autogestione, in questo interregno, io sono salito a livello 15, va bene? Va bene. Va bene, figlio. Va bene. Va bene, figlio. Arriva il conte Strada che ti toglie 20 livelli e adesso no, beh, più semplicemente crolla il soffitto e vi schiaccia. Allora tu entra in questa porta, che è la numero non so, è una stanza anche. Numero 22. Ok, quando vedo che Patk non sta, cioè Patk, quando Garrosh non sta smartellando niente, allora mi avvicino. Ma se la porta è aperta, la apro normalmente, chiaro, se è chiusa come... Non mi fido. C'è una magnifica tavola apparecchiata con un lussuosissimo banchetto. 22. Un bianchetto. un bianchetto. Un banchetto. La porta. Mi serviva per cancellare questa roba da pergamena. Madonna, ce l'hai. Alle pareti sono appese varie torce che illuminano la stanza e al centro di essa. Sopra il tavolo c'è un magnifico banchetto che riempie la sala con le ricche fragranze. Ah, sembra proprio buono. Della carne ben cotta. Ci sono dolci, verdure, insalate, tantissime insalate, della salsa e soprattutto del vino. Vino! Quello vale, prendilo. Beh, io se il cibo è fresco o è roba tipo... Il cibo è più invitante è saporito. Beh, mi siede e mangio. Mi siede e mi mette a mangiare. Quindi vedi Strad Investigation, vedi del cibo in un tanto. No, io non l'ho fatto investigare, fermo, io non ho guardato neanche fuori dalla feritoia. Io non ho guardato fuori dalle feritoie, non ho visto Strad. Però ho sentito Vez che diceva che c'era Strad. Qui ha detto, voglio vedere cosa c'è in questa stanza. Allora, noi siamo venuti qui per sconfiggere i teschi mentre gli altri si occupano del golem. Gli altri si occuperanno del golem. Bravo, Sceo, nessuno aveva parlato di Strad. Esatto. Ok, che cosa consumi, cosa mangi, cosa bevi? Vabbè, sicuramente del vino e non lo so, della carne, cioè della selvaggina. Sì, certo, tutta la carne, tutta la cinghiale, cervo, di qualsiasi tipo. Per accompagnarla, quindi... E ne offro un po' a Patk. Poi? No, grazie, sono un po' di insalata. C'è anche un po' di... E Patk dice, certo, è ottimo la selvaggina, questi stupidi animali di merda. E voi dico, che c'è? Allora? Sono carne morta. Carne morta. Ragù è carne morta. Ok, nel momento in cui allunghi le mani per prendere la brocca di vino, le luci e il banchetto svaniscono. No, rimangono solo il tavolo, le sedie e la brocca. La brocca che hai in mano era praticamente l'unica cosa reale che c'era sulla tavola. Ed è rimasto il vino all'interno. Vino. La brocca. È una brocca. In Barovia questo vale tanto, quindi teniamocelo buono. Sì, il vino c'è. È vero, è reale. Allora ne bevo un po'. Ed è anche buono. Faccio un brindisi verso i miei compagni. Esatto. Lancio una freccia contro la brocca. Nel momento in cui abbassi il gomito dopo averlo alzato, dalle pareti escono sette spettri che ti circondano. Tira l'iniziativa. Ok. Vabbè, dai, ci sta. Cosa faccio? Non bevo. 12. Che faccio? Lascio. Allora. Sarebbe scortese. Dove sei? Garrosh, 12. Gli altri? Io continuo a guardare dalla feritoia e monitoro la situazione. Ok. Non faccio sedici iniziative. Neanche accorto di questa cosa. Fatta una 16, Zoom un attimo verso l'alto, cioè rimpicciolisci. Rimpicciolisco. Dove cazzo mi hai messo? Lì dalla feritoia, Arce. Sì, io sono dalla feritoia sopra, comunque. Sono sempre lì. Sì, ma io quando ero andato con la porta ero andato avanti. No, io non mi ero spostato, cioè proprio non mi ero parlato con Giulio, poi sono andato a guardare. Arce, quattro quadretti dietro Sheova, ha detto. Era quattro cubetti prima della porta, Avevo completamente perso sta parte, no, non l'avevo proprio sentito. Ero quattro quadretti di Toshio quando Sheo apriva, poi quando Sheo entrava tendenzialmente avrei seguito, vabbè, però. Ah, ok. Non mi ero proprio, non so se l'hai detta che ero al cesso. No, no. Proprio l'ho completamente perso. Non ci porto con te quando vai in bagno. Ce l'avrebbe fatto. No, io sono nella stanza qua dove c'era il castello. Ok. Magari butto l'occhio giusto per così guardare la situazione come vuole. Va bene, quindi. Akash 16, Garrosh 12, Patk. Devo ancora tirare, aspetta. E uno di dado, quindi tre. Vabbè, okay. Tiriamo tutti iniziativa, visto che comunque c'è un combattimento, ce la giriamo in turno. Ok, 4. Ma perché sfortuna nell'altra stanza? Perché sta facendo quello che sta facendo meglio. No, scusa, it's bossy time. L'Ardi sta in 4. Scusa, io ho ucciso un teschio e ho tirato fuori mezza vita all'altro. Fatto per adesso il mio combattimento. Comunque è il tuo meritato riposo, mi sembra giusto. Ma in realtà anche la mia intenzione era quella di riposare qua e mangiare. Mi hanno disturbato. Poverino. Però il vino era vino. Ho voglia di entrare. Il vino era vino. Il vino era vino. Era reale, il vino era buono. Questa cosa non è mica brossolino. Ed è ancora lì. Non l'hai vuotato. Infatti. Ci arriviamo. Sfortuna, mi tiro un'iniziativa così segno anche la tua. No. Ho fatto 7, l'ho detto prima. Io non ho iniziativa. No, non ho iniziativa. Ok. Sfortuna 7. Ok. Pac, cos'è? 3? Quanto hai di destrezza? Sì, ha fatto 3. 3, nice. Ok, iniziano gli spettri. Nice anche no, però. Dipende per chi. Punti di vista. Cost. Sì. Smetti di cliccare, basta, fermati. 7, stamici arrivati. Ok. Va bene. Si avventano contro il possessore della carafa. Allora. Non è mia, quindi esatto. Allora, come funzionano gli spettri? Succhiano la vita. Intanto provano a colpire. E hai tu ancora 20 di classe armatura. Esatto. Sono io che la sento malissimo. Ora vai anche io. Pronto. Sono spettri o fantasmi? Sono spettri. Spettri. Io non ho trovato sotto al 4. No, comunque questi non ti colpiscono perché sono solo fatto colpire. Sembra quasi che i tuoi amici ti debbano regalare delle cuffie, cazzo. Ok, sono due ti colpiscono. Ogni colpo ti infligge 10 danni necrotici, quindi easy. 20, e poi per ogni colpo devi fare un tiro salvezza sulla costituzione. Tiro salvezza sulla costituzione. Grazie. Su questo non ho vantaggio. Non sono in ira io, no, perché non l'ho ancora fatto, quindi no, non sono in ira io. Stavi quindi due volte. Allegramente. Quindi ne tiro due, giusto? Sì. Faccio un 25 e un 14. Puoi tirarne anche uno o due volte, scegli tu. Direi che basta. Lo hai passato. Metti due. Atanas. Mi avvicino alla porta perché vedo che lui è entrato e quindi... Arrivi sulla soglia e vedi che è circondato da spettri che lo stanno attaccando. Spettri con le ali. Esatto. Dovrei, ora mi diverto, ora invoco i mastini e scappo fuori dalla porta. mi sa che ho usato tutto il mio movimento per arrivare fin lì. Sì. Quindi sparerò due frecce. Diciannove. Colpito. Sono 5 più 4, 9 più 4, 13 danni. Ok, a meno che non siano magici, hanno la resistenza. Io non ho mai visto qualcosa di magico, quindi... Però sono illuminate le sue frecce, forse. Quanto avevi detto? 19? 13 danni. Ah no, i danni 13 danni. Okay. 19 era per colpire. Ah sì. E questo era Atanas. Garrosh. Vado in ira e non carico. Perché non c'è spazio, credo. No, sei circondato. Non avevo recuperato le ire io l'altra volta. Sì, perché hai fatto il riposo breve, non so quanti ne hai. Quindi sì, sì, sì. Pardon. Sì, recuperano con riposo breve le ire. Sì. Vado, attacco. Non posso caricare, lo confermo. Te lo confermo, oddio. Volendo puoi prenderti 7 attacchi di opportunità per uscire e rientrare. No, però voglio vedere. Arrivo, dammi 3 secondi. Picchia quello che ho ferito con le frecce, scusa. Sto pensando di usare, ecco, si è bloccato. Di usare attacco incauto. Arrivo. Se lo usi tu hai vantaggio e tutti gli altri hanno vantaggio. Volevo confermarti l'ira recuperata, mi hai messo la pulce nell'orecchio. Ah, ci sto guardando io, tu decidi cosa fare. Ah, ok, sì, faccio attacco in caut. Cata, riesco ad andare a fare la pipì o devo toccare a me tra poco? Beh, portati tocca dietro. Tocca a te relativamente poco. Mettici in tasca. Un torno di scemo. Comunque l'ira si recupera con riposo lungo. Ci sono prima io. Cazzo, allora uso la terza ira, vabbè. E col primo faccio 18, tirando con vantaggio. Dai, Cata, intanto ti spoilero che evoco i mastini e scappo. Andato in bagno. Che carogli. Ok. E faccio massimo 15 danni col primo attacco. 15 danni. Non è un'arma magica. No. Giusto. Su quello ferito da Giulio. Ok. Secondo attacco 13, che schifo. Per colpire, l'hai colpito. E sono poco, 11 danni. Ok. E basta, a meno che tu non mi dia l'attacco extra per un caricamento strano. No, non ce l'hai proprio. Sfortuna. Quindi sento un po' di rumore di lotta nella stanza di fianco. Mi sposto per 20 piedi qui. Qui? La porta è aperta, giusto? Sì. Vedo la situazione, immagino, da qui. Garrosh circondato dagli spettri che lo stanno assalendo. Allora tiro una bella palla di fuoco. Cosa? Qui, in questo punto. Quindi 20 piedi direi che col... Sì. Sì. Riesce a colpirli tutti. Cioè si vede tipo Arci che si gira indietro, fa presto Garro, c'ha bisogno di aiuto, e tipo sfortuna fa say no more. Tra l'altro questo però è molto me, effettivamente molto miei personaggi. Ma è molto sta posi. Rubando un po' la scena, Giulio. No, perché non ho colpito Giulio e Pat, ho colpito solamente No, ma grazie. Atanas non farebbe una cosa del genere, ma tipo Cypher lo faceva. E con piacere. Sacrificabili. Cypher lo faceva appena possibile, però. Allora, dammi classe di difficoltà. C'è tutto su Roll20. 28 danni e difficoltà 16. Quindi destrezza. Tiro con vantaggio. Faccio 16. Sui tiri salvezza vale. Sui tiri salvezza vale la luce. Sì. Salvezza sì. Ma io non sono strado, cioè. No, no, appunto 17. Ma comunque anche 16 avrebbe passato. Quattro si salvano, tre no, e sono resistenti al fuoco. Quanti danni sono? 28. Cioè, in poche parole, hai fatto male solo a me. Quindi chi adesso è... sappiamo che sono resistente al fuoco, quindi non devo pesare il fuoco. E scemo lo sappiamo anche. Anzi, con i peli in faccia prendo fuoco facilmente. I peli unti. Peli unti. Sì, ancora più infiammabili probabilmente. Allora, quindi a quanto sono, Giulione, in tutto questo? 74. A metà vita più o meno. Poverino. Quello che avete attaccato viene incenerito. Sono arrivato da 5 minuti e ho perso 40 punti. Ho capito, pure però. Per cui, il mio turno? No, tocca a Vardis. Ma il mio turno è veloce. Io continuo a guardare la situazione. Cosa succede? Il golem entra nella stanza. Okay. Quindi e senti i passi pesanti mentre cammina. Ok, allora... mentre entra senti che già nella stanza c'è rumore di colluttazione. Ok. Prima allora... ancora che lui sia dentro. Allora in quel momento io mi volto verso gli altri, perché penso che siano ancora lì. E vedi sta scena. E dico, presto, è il momento di agire. Poi vedo che stanno facendo bordello e dico, ma che cazzo succede? Noi stiamo già agendo, sei tu l'unico che non fa mai un cazzo. Vai. E quindi c'ho uno che posso attaccare lì? Vediamo subito. Sì. Va bene, vado e entro e attacco. Ah. Mio malgrado. Cata, se vuoi caricare l'immagine del golem, te lo mando. Sì, l'ho vista, grazie. Ci sta. Okay. Se mi dai l'autorizzazione ai diritti d'autore, 14 colpisco. Sì. Dai. Questo è il golem d'ambra. Sono di 14 danni. Allora, 14 danni magica. Attenzione. Sì. Esatto, l'unica persona in questo gruppo. Dai, tu che hai l'arma magica, vai, aspetta, guardo la feritoia. È perché stava facendo un'altra cosa, sei te che sei entrata a cazzo. Potrei quasi trasformarmi. Fantasma che hai colpito è quasi scomparso, ma è ancora Ma c'è il mio secondo attacco. Sì. Che è un 26. Colpito. Oh, che peccato, ho fatto il massimo. Il massimo 19 danni. Devo piangere adesso che hai imparato. Viene bandito da questo piano di esistenza. Un po' come la musica. L'avete bannato. Come la cosa della musica che ho bandito. Tocca a te. Dai, È appena esplosa una palla di fuoco in questa stanza, che cosa fai? Ero io con la palla di fuoco. No, era la palla di fuoco di sfortuna. Ma cazzo, è vero, quindi scappa. Beh, non è che c'è anche in un posto in cui ha bruciato un tempo qualcosa e non posso entrare. Esattamente un secondo fa. Sono una palla di fuoco, è un po' diverso. Tira la volontà. Preso dal terrore, Catta, posso dire una cosa? Per sbagli i mastini e poi scappa. Posso dire una cosa? Secondo me tu o alcune cose gliele imponi oppure gli fai tirare la volontà ad Arci. Volevo sperare con una sua... No, Arci va commissionato, cioè assolutamente. No, più che altro è che c'è nel senso, tipo, la palla di fuoco l'ha fatta sfortuna, è arrivata, è scoppiata, è sparita, cioè nel mio turno scappa, è quello che dico. Arci, è stata presa un'esplosione di fuoco, cazzo! Non è che dici, però è finita. Tutto ciò che di combustibile c'è ha preso fuoco. E poi tutti Tavolo, sono in contemporanea. No, avevi scatenato i mastini, Arci. Allora faccio così, faccio come... Dai, tira... Sparo un cono di freddo così sono sicuro che stavolta Vez lo prendo. Catta, per non favore, so. Fai qualcosa. Sì. Questo glielo concedo. Quanto è? C'è il terzo che spari? Sì. No, ma non lo sparo, dai. Perché... Aspetta un attimo, però. Prendi i danni dimezzati, no? Dal freddo no. No, beh, dai, non ha senso. Ah, evitiamo di continuare a colpirci da soli, che già siamo fatti. La palla di fuoco di sfortuna ha colpito Vez e Sheo. No, io non so. Sono me. Ah, quindi Sheo adesso sei accaldato tu. Esatto, è molto caldo. Vuoi raffreddarti, immagino? No. No, beh, Catta, allora no, vabbè, se c'è la palla di fuoco io ho paura, scappo, scusami. Bravo. Va bene. Fai così, Catta, dimmi tu se devo fare tipo un tiro sulla volontà, perché magari, visto che sì, la esatto, Catta, commissionano. Va bene, fai un tiro sulla volontà. Cioè, raga, se fosse un fuocherello fai un tiro, ma questa è una cazzo di bomba di fuoco esplosa. No, secondo me deve cioè, nel senso, no, secondo me ci può... 21. Secondo me ci può anche stare che faccia una reazione, cioè, nel senso, spari un incantesimo come reazione, tipo e poi scappi. Esatto. Solo perché sono stato in mezzo, Giulio. Esatto. Quindi Giulio ti sta proponendo di fare. Giulio è di fianco a te in questo momento. Ho capito bene. Giulio ha detto fate la narrativa, praticamente. Sì, cazzo, fate la narrativa. Puoi lanciare un incantesimo e poi scappare. Può fare una cosa e poi scappare. No, però ci stava di mettere quella che ho messo. Sì, no, ci stava. Per l'altra c'è sempre tempo. Quella vale sempre. Vabbè, Catali, l'unico incantesimo che play narrative. Devo fare quasi la maglietta. Devo che mastini. Sì, dai, diciamo così, dal punto di vista, cioè, no, scappo è buona, perché l'unica cosa che potrei fare è lanciare il cono di ghiaccio, ma comunque non sono ritardato. Rega, ma fai il tiro, se il tiro ti dice che riesci a lanciare, lancia e poi scappi. Ho già fatto 21 di tiro. Allora, ormai l'hai fatto, spara un incantesimo e vattene. No, l'unico che posso sparare di intelligente è il coso di fuoco, di freddo. Sparalo. Ammazzo tutti voi, non ha senso. Ma scusa, non hai qualche altro cantrip? Vabbè, ci sta, sei spaventato, ammazzaci. O spara gli animali, non gli animali, non sei un druido. Uccidimi! Non sei un druido, non puoi sparare gli animali. Il paladino con intenti no, perché mi sa che... Mi sa che con gli incantesimi, rega, se io non ho riposato non ho più un cazzo, perché ho usato tutte cure, tutte le evoca cose. E allora spara i mastini! Ma tipo hai Frostbite come cantrip, non ce l'hai? Non l'ho scelto, mi sa. Se non mi ha fatto il riposo... Ma è un cantrip, deve sceglierlo? Sì, è un cantrip. Sì. Ma non li ha tutti, ha quelli che scegli. Ho capito, ne avrà almeno 4 che conoscerà. Sì, mi ha fatto di dipende quale scelta. Cioè, non sono utili in questa situazione. Cioè scusa, che cantrip hai scelto? Tolto Fireball che non puoi più usare. Sono tipo... poi, esatto, scusa, tu stai sparando tutti questi cani di freddo, ancora ma li non abbiamo ancora riposato dopo che ho toccato e abbiamo scelto quella roba lì, eh. Ho capito, ma c'hai cantrip. Che cantrip hai tu come personaggio, scusami? Ma avrà mille altre forme selvatiche. Ho dei cessi di cose e l'unica utile è Firebolt. Che non posso fare. Ah, perché hai paura. Sì, ho gli animali, ma anche lì gli animali non fanno danno magico. Ma scusa, che cantrip hai scelto tu nella tua vita? A parte Firebolt 4 volte. No, Firebolt più qualcun altro di inutile. Tipo quelli che curano un PF o quelli che evochi l'assorbente, quelle cose lì. Vai, l'assorbente sembra pericoloso, evocalo. Da utility, non da fight. Comunque, niente. Scappa è buona, dai. Ok. E questa è la PAC. E urlo. C'è del fuoco! Fuggite! Bello che comunque, scappa. Vi ricordate che una palla di fuoco. I cosi ne hai solo alcuni, Di cosa? Di cuore di freddo. Sì, lo so. Ho capito. Sono senza incantesimi, non abbiamo riposato, cioè, non è che... Due spettri attaccano Nordistrom. Vai. La struttura? 17. 17? Sì. Uno ti colpisce e uno no. 10 danni necrotici e fai tiro salvezza sulla costituzione. Ti tiro sempre di merda. Costituzione, però almeno il mio più 2 dovrei avere, no? E la luce. E il tuo più 3. E il mio più 3 è la luce, sì. Vabbè, comunque è un 14, mi sa. 14, passato. Garrosh, due ti colpiscono e il terzo invece no. Quindi sono 20 danni necrotici e 2 tiri di salvezza sulla costituzione. Attento al microfono, Catta, che sentiamo sempre poco. 24. Se usassi le cuffie non avessi questo problema. Hai ragione. Aspetta, 20 danni a Sheo e quanti a Vez? 10. Io ho fatto un 24 e un 12. E passano tutti il tiro salvezza. Perfetto. Poi 10 a Vardistran. Sì. Abbiamo perso Giulio, raga. 10. Scusate, c'è la connessione che è un po' stanno. Noi però ti sentiamo. Sì, è vero, noi ti sentiamo. Noi ci sentiamo bene. Attacco. Attacchi? Uno ferito. Sì, uno di quelli su... Quello lì, sì, non so. Chi è che è ferito? Nessuno. Sono feriti quelli più dietro sono quelli che hanno preso di più. Ma tu sfortuna perché hai sparato una palla di fuoco sui tuoi amici. Potremmo anche è una buona domanda. Posso dire, potremmo anche fuggire da qua volendo. Anche quelli sono sospetti. Perché i danni che faceva gli spesseri erano di più di quelli che avrebbe preso Gar. Cosa vuol dire? Con questo ragionamento anch'io ogni volta per sparare. Allora, ho fatto un 1, però ho fatto anche un 20 naturale e un 6 più... quanto? Tipo più 9? No, più 11. Quindi 18. Io ho fatto... Io però dovrei andare a nanna, purtroppo. Ma che per quello che posso fare in sti fight, il fatto che voi sparate fuochi per tenermi lontano dalla zona. Beh, ora magari ti ripigli e torni dentro. Sì. Cioè, ripigliarmi in realtà è a cazzo. Però adesso aspetta, potresti riprenderti se non vedi. Un attacco sono 13 danni. Nella stanza non mi dice che dentro, siccome bruciano le sedie, non posso entrare. Ci sono 5 e pure altro sono 13 danni. Muore. Catta, ci sono 5 torce nella stanza. Quelle erano illusorie, sono sparite quando hai preso la brocca del vino. Ah, ok. Tanto ci sono io che... Quindi io non vedevo neanche niente, era tutta la palla di fuoco a caso. No, c'era la luce di Varlistran, forse. Sono rimasti 4. Fuori. No, lui è arrivato dopo. Sì, l'hai sparato. Ne sono rimasti 4. A chi tocca? Garrosh. Ah, scusa, non ti sentivo. Bevo un altro sorso di vino e poi attacco. È un'azione. No, dai. Eh sì, ormai fatto, ciao. No, te la giro con un oggetto. Perso il turno, svantaggio. Paradossalmente, allora, per il deve tirare concentrazione per bere il vino. Concentrazione con l'oggetto. Se invece fosse stata una pozione, vabbè, allora non lo faccio. Attacco. No, lo puoi fare. Dai una testata alla brocca come interazione e poi attacchi. No, vabbè, il primo attacco è 16. E fa 14 colpito. Danni. Non faccio attacco in campo. Ok. Il secondo è 24 e faccio poco. Colpito. 9 danni. E basta, l'attacco extra. Non è che posso tipo saltare sul tavolo, correre, tornare indietro e caricare. No. Sei ancora circondato. Puoi farlo prendendoti dei gran attacchi d'opportunità. Che non ti consiglio. Una, dai, altra palla di fuoco. Esatto. No. Faccio 2 Eldritch Blast. Ecco. Faccio un 19 e un 15. Colpiscono entrambi. Faccio un 7 danni e un 12. E ne segui uno. Dai, dai. Vedi, Vez, non si scappa, si combatte. Bardistran. Vai, attacco. Cosa c'ha? Uno ferito addosso? Vabbè, quello che c'ha addosso. Poi uso anche la mia azione bonus per dare un'ispirazione bardica a Pax, così si riprende. Tanto faccio 20 okay. A colpire. Colpito. 2 lo ritiro. Un 3. Sono 14 danni. Pieno. Ok. Poi tiro un altro. 17 a colpire, lo prendo, vero? Vai. Sì, colpisci e lo ammazzi. E altri 14 danni. Ok. E questo era Bardi. Pazzo. Il bardo infonde coraggio. E nel buio della stanza riprendi i tuoi nervi saldi. Cosa fai? Entro, vedo le sedie che bruciano e torno fuori. Perfetto. No, grazie per la cura. Cosa hai chiesto? Vabbè, regalo, gli vado a schiaffi, mi lancio. Aspetta. Poi non hai forme selvatiche. Ecco cosa posso fare, mi sa, con come trucchetto. Il randello incantato. Scella la. Skillelle. Cos'è questa onomatopea? Skillelle. Sigma Hell, Sigma è il nome del gatto. Stai bene? Però gatto, non abbiamo sentito, è il nome del quello irlandese. Non ho detto niente, in realtà deve aver lagato di brutto. Shillelagh comunque è il nome dell'incantesimo. Sì, sì, Shillelagh l'abbiamo sentita la lag. Io prendo fuori il randello incantato e mi fiondo urlando per Frodo. E vado su quello che pesca di Frodo. Sono mal ridotto. Sì, sono tutti basta, basta. Il più mal ridotto. Sì. Che non sia Garrosh, ovviamente. Ci sono questo. Io che sono molto passato. E mi sa tra che altro. Faccio 14 di dado più la mia skill magic, che skill è la saggezza. Colpito. E mi sa che faccio un D6 più 3. Non vorrei dire una cazzata, però. Forse un D8. Il dado è D8 per il danno. Ok. Quindi faccio un D8 che fa 6 più 3, 9. Magici. Ma credo che ci sommi anche i proficiency o no? No, no, scusa, cazzata. Ok, vai avanti. Lo hai segato in un... Boom! E poi urlo. Non tocca mi scende divertendo. Mi provo ad attaccare Garrosh, ma manca. Atanas. Bravo. Attacco l'ultimo spettro. È tutto tuo. Però faccio un altro uno. E poi faccio un 8 più 11 e un 6 più 11. Quindi 19 e 17. Per un totale di 8 più 1, 9, più 14, 23 danni. 23, quindi sono 11, quindi 25 e lo affetti come se fosse un salame spettrale. Bene. La stanza è ripulita. Okay. Approfitto subito per castare prestigitazione su Garrosh in modo che il puzzo di peli bruciati sia rimpiazzato da tipo un odorino di menta. Muito. Ok. Dentifricio. Ok, tutto molto fragrante e aromatico. C'è un'altra porta che va verso la sala. Io dico a Garrosh, smetti di toccare ogni cosa. Verso la sala? C'è un'altra porta che va al salone. Che quella che vedevate da sotto. L'apro. Che porta al... Boh, aspetta. Cioè... Al parapetto, questo 12 palco. Pali di fuoco. Buono, non ha senso andare a morire. Sì, non è che quello che questo, però ormai questo soppalco è molto danneggiato e pieno di crepe ed è alquanto pericoloso camminarci sopra se non si fa attenzione. Ma stando rasenti al muro, arrivo all'altra porta. Stando rasenti al muro, si arriva all'altra porta. Ok, provo ad aprirla. Ok. Questo è il... Io regalo di una nanna, però. Adesso. Ciao, Arci. Ok, Arci. E... Ciao. Buonanotte. Se ve la vedete brutta, io evoco i mastini e scappo. Ok. Ciao. Così basta che giocate i mastini. Stai mastino. Vedi. Ciao, buonanotte. Vedi due feritoie qua mentre ti avvicini. Aprendo questa porta riveli una stanza. In questa stanza c'è un disimpegno con alcuni candelabri X24 si chiama. Nella cosa, nel parapetto mezzo rotto, c'è qualche sasso? Sì, sarà. Perché? O si può, lo puoi staccare volendo. Prendo un sassolino e chiedo a Sfortuna di lanciargli luce sopra e lo buttire dentro la stanza. Guarda, il mio turno, allora si lancio luce sopra. Qui va bene. Sì, anche perché non è grandissima quella stanza. Lo lancio con forza più in là che posso, però indietro. Ok. E faccio segno agli altri di avanzare. Ha una... Come si chiama? Fuori. E un disimpegno di fronte a te e poi in fondo c'è una cappella. Una, sì. Una cappella. E ai lati ci sono. Sì, una, come si dice, shrine in italiano. Un tempietto, una cosa. Una, Non siamo più in fascia protetta, si può dire, cappella. Un altare. Un tempio, una sorta di tempio. Sì. E dico gli altri, c'è un tempio. Un santuario. Oh. Un santuario, c'è un santuario. Ma state okay. attenti che il terreno fria. Che? Il terreno esatto. fria. Inspiration. Ok. Bravo. In fondo vedi la statua e due cadaveri prostrati sul fiume. I corpi sono essiccati da tempo immemore. Nessun problema. Riga, tutto normale. Alcove. Ah sì, e qua ci sono un paio di alcove ai lati. La statua è una statua di ossidiana alta 4 piedi e raffigura Dio senza nome. È una di ossidiana questo. Ma comunque, è incredibile. La statua grande al centro. È incredibile che sia d'ossidiana. Sì, beh, in tempi d'ambra, finora abbiamo incontrato solo cose d'ambra. Beh, forse anche la statua grossa era così. Comunque, fammi la salvezza sulla saggezza. Sulla saggezza. 19 più... un cazzo, però più uno della luce, 20. Certo, ma che culo. Il più uno della luce. Senti, è la alla statua... luce, alla classe armatura e tiri salvezza, rega. Tiro salvezza sulla saggezza. Come questo. Ok. Esatto. Non ho capito che... percepisci che la statua ha un fortissimo potere attrattivo, cerca, ti senti come spinto a prostrarti a lei e adorarla, ma riesci a mantenere la calma e la tua, e riesci a mantenere saldo il tuo volere e non viene attirato da lei. Ok. Comunico agli altri sta roba. Ok. Quindi qui c'è una statua sostanzialmente oscura. C'è una statua d'ossidiana che ha uno strano potere, tipo ti richiama. Io se vado al principio di questo pianerottolo vedo il salone e vedo ancora combattimento o sento solo i suoni? Senti solo i suoni, il combattimento sta ancora avvenendo all'interno della stanza che c'è qui sotto. Ok, allora io dico, ma Atanas, no, non pensi che potrebbe essere questa l'occasione per bypassare il golem e andare al piano di sotto? Perché si è infilato di là e sta combattendo. Appunto, ma dove dovremmo andare noi? Sotto. Andiamo a esplorare sotto. Ma se c'è il golem... No, se diciamo che il combattimento sopra. Finisca. No, ma non sotto lì, no, sotto c'ho... ancora più giù. Giusto, Katta? Sì, questi sono al piano di sotto, Questo dovrei switchare tra le due mappe. Sì, no, ho capito che... ma loro sono sotto. Sì, ho qua, capito, qua. Ma sotto c'è ancora più giù un piano, giusto? No, non c'è, non che voi sappiate. Voi siete quindi siete le due sopra. Ma quindi anche l'altra scala andava su? Sì. Allora, queste due, dici? Le due scale lì. Ok, no, allora non ho capito. Io avevo capito che c'era un'altra che andava giù. Niente, allora come se non avessi detto, continuiamo pure. No, non che voi sappiate. L'unica cosa è che... se vogliamo passare di qui, bisogna stare attenti a questa statua. perché è uno strano richiamo. Però sicuramente con la tua guida, Vardistram, gli altri non avranno problemi. Esatto, seguitemi. Ok, okay, Vardistram, entra nella stanza, tiro salvezza sulla... Sulla? Saggezza. Saggezza. Saggezza. Uno. Dai, diventa mappa. Ok. Vieni. Senti un'incredibile attrazione verso questa statua. Oh. E le tue membra si muovono indipendentemente dal tuo volere per avvicinarti ad essa e prostrarti ai suoi piedi. Quindi vedete Vardistran che va lì e si posiziona di fianco a questi due cadaveri che sono lì da tempo ormai in memoria e che vedete vestivano secoli fa delle tuniche da alti o alti sacerdoti o comunque importanti studiosi. Io apro un attimo l'altra porta. Mm-hmm. Vedi un corridoio e una feritoia che avevi visto passando da fuori. Ok, sembra tipo un punto cieco, cioè nel senso finito lì. O c'è una porta segreta da qualche parte, ma servirebbe Race. Fare un perception. Può fare un investigation. È vero, posso fare un investigation. Faccio un investigation. Servi tu, non... solo che ormai ho tirato 9, quindi... Oh. Infatti faccio 5 più 5, 10. In questa stanza non so più quanto. Dai Giulio, vieni a pregare. Non meglio resistere. Ciò che cosa fa? Dai. Vabbè, seguo gli altri, se vanno tutti nella stessa direzione non rimango da solo. Bravo. Entri nella stanza e vedi la statua, fammi un tiro salvezza sulla saggezza. Ho il più 3 del mio amichetto? No. No, dov'è il tuo amichetto? Dov'è il mio amichetto? È lì a... È lì a pregare. Vabbè, siamo entrati... Cioè, come vuoi. Siamo vai! Io tanto comunque... Sarebbe assurdo darti un più 3 nel momento in cui sono completamente andato. Hai più uno però, vedi. Allora, vedi. Che sei più saggio di me. Sei più saggio del saggio paladino. Senti anche tu questo. Ancora qualche sessione da camicia di forza al paladino. Ormai ci siamo. Stiamo spremendo per che sono uno dei pochi senza che non si è corrotto con i poteri, dai. Appunto. E quindi impazzirai. E viene rilassato. Ormai. Esatto, questo fastidio. Siamo di questa statua che però te ne sbatti. Vai, spacca la statua. Fai quello che vuoi. Cioè, quindi non ho nessuna cioè non mi arriva niente. No, hai questa ma resisti. Questa cosa che prova ad attirarti a sé, ma tu sei così figo che te ne sbatti. Mm. No, non mi... A differenza di Paladino. ma tu continui, cioè non aspetta, no, cazzo, io avrei anche più 4, ma l'uno è fallimento automatico, giusto? Allora torno nell'altra stanza, vero, e finisco lì. Vero, Catta? Pensavo avessi la brocca con te. Devo verificare questo. No. Perché se non era un fallimento automatico era un 9, ma penso che comunque avrei fallito. Ho lasciato la brocca perché io ho scudo e martello, mi sembrava un po' complicato. Ho capito. Potrei tenere la brocca sotto braccio, però mi sembrava un po' scomodo. Che poi anche questa cosa che non ho capito cosa è successo. Anche questa cosa niente, che non servono i drink o le cannucce. Ha guardato sta scena e adesso vuole tornare di là. Microfono. Ok, ha guardato e vuole tornare a bere il vino. Certo. Esatto. E sfortuna cosa fai? Io sono qua che osservo, quindi capendo che c'è qualcosa che non funziona, anche date le indicazioni di Atanas, provo mm-hmm. a bendarmi gli occhi e poi entrare. Ok. Entri bendato. Cadi. Sì, esatto. E comincia a stare in giro, non lo so che cosa vuoi fare. Ma uso gli occhi del mio famiglio per vedere cosa succede. Ah, fai il tiro salvezza con famiglia. Io guardo Sfortuna che entra bendata come si guarda un idiota. Peccato che lui non ti vede. Ah. Dove sono le statistiche del gufo? Tu tira, te le vado a prendere io. Va bene. C'è uno che si mette a pregare. 11. Bendato, rega, ma come stiamo messi? Allora. Ha più uno di saggezza. Il tuo gufo viene attirato totalmente dalla statua e si mette a prostrarsi ai suoi piedi. Oh, gli gufo. Però vedo attraverso i suoi occhi comunque. Vedi la statua e il pavimento quando si prostra. E ha poi okay, non so se guarda che fa lo stesso. Io cerco di parlare a Vardistra anche dicendo, ma cos'è questa statua? Posso provare a tirare una religione per capire cos'è? Puoi provare a capire cos'è con un'arcana. Attraverso gli occhi del gufo che ogni tanto guardano per terra. Io mi sono permesso di spostarmi. Sì, fai pure. Puoi provare un'arcana? Un'arcana. Allora, proviamo un'arcana. 3. Però. Non hai idea. E quando tiri palle di fuoco fai sprazzi. Sì, Ma io posso interagire o rimango lì fermo in adorazione e basta? Tu puoi fare altre cose che non siano allontanarti dalla statua, okay, e smettere di adorarlo. Allora, ma ho consapevolezza della divinità? Mi chiedi se sai che divinità sì. È una divinità di un dio senza volto, e anche questa è una figura incappucciata come quella che è nell'altra stanza. Molto allora più. Dico ad Atanas: questo è il dio senza volto, il più potente di tutti gli dèi, il più magnifico, il più giusto. Inchinati a lui, presto, mostra il rispetto, muoviti. Dimmi che sfortuna sta per fare l'immagine di Strad su questa divinità. Non la vedo. Ma non diventa un Oathbreaker così? No. Non so neanche quale sia il suo off. No, il suo off, anzi, è quello di vendicarsi, quindi. No, esatto, io esatto, devo vendicare Ade. Ade. Io provo a richiamare Garrosh qua. Dico, Garrosh, che cazzo fai? Vieni qua. È finito il vino. Il vino arriva alla fine. Va bene, allora torno di là. Dimmi, non si può neanche bere in pace. Che io gli farei tirare un coso per vedere se cade giù dal parapetto. Ma io cammino sulle pareti. È un montone. Cioè, lui è entrato, ha fatto il tiro, ha avuto l'irrefrenabile desiderio di bere il vino ed è tornato indietro a bere il vino. Sì. Non ho avuto il desiderio, visto che qui non c'è un cazzo da fare, perché sono tornati indietro a bere. Sono venuto, dimmi, che vuoi? Stavo a bere. Dimmi, Atanas. Posso fare un secondo? Che... Certo. Faccio il rituale Tech Magic così almeno riesco a vedere qualcosa. Perfetto. Attraverso la benda, senza guardare la statua. Il rituale dura 10 minuti. Sì, sì. Okay. Prima che il barbaro finisca il vino. Non penso che ci metta molto il barbaro a finire il vino. C'è una fortissima aura magica sulla statua. Ma se il problema è la statua, ci penso io, rega. E poi anche la scuola è enchantment. Te lo dice il Black Magic. Atanas, mm-hmm. Mi hai chiamato, sono qui, dimmi. Ok, tu come stai? Tutto bene? Tutto bene. Devo rifare il tiro, Katta, ora che entro di nuovo o basta il primo? No, penso basta il primo una volta che lo superi. Quindi noto solo la statua, nient'altro. Il vino l'hai finito? Sì, buono. Era buono? Ma perfetto. Sì. Credo che abbiamo un problema, cioè relativo comunque. Sì. Credo che sia quello lì sdraiato prostrato a una statua il problema, immagino. O quello bendato, dimmi tu. Esattamente. Quale cominciamo? No, lui è sempre in ritardo. O quello di là che si spaventa con le fiamme, dimmi tu. Poi il problema dicono che siamo noi malvagi, però dimmi tu. Una percepisci anche un'aura magica intorno ai batti. Dobbiamo trovare un modo per... Cos'è che senti? Un'aura magica provenire dall'intorno della bocca di Garrosh. Non c'è problema. Tu, ovunque, non uscirà un xenomorfo improvvisamente dalla pancia di Garrosh. E Atanas, hai visto che c'è di là? Ti ho visto andare di là, che c'è? Delle mura. È una stanza chiusa con una feritoia. Forse c'è una porta da qualche parte, c'è una porta segreta, ma non l'ho trovata. Vado io di là e comincio a sbattere il martello, cioè non per colpire, però a fare tipo tocchettare per sentire la cosa. No, non fare troppo casino, che finché il golem combatte lasciamolo combattere. Ah, ci penso io, tranquillo. Fidati. Appunto, è questo. Ah, provo a, cioè, tipo come se bussare per sentire se fa del vuoto da qualche parte. Ok. Questa qua. Quale stanza? Mettiti. Quella. Ok. Senti. Seguo l'idea di Atanas. Questo muro, quello a destra, è più sottile. E c'è del rimbombo come se ci fosse una stanza di fianco. Quello sopra invece qui è più spesso. Allora guardo Atanas e dico qui sicuramente c'è una stanza dietro e tiro. Ok, dobbiamo trovare una porta però. Vabbè, se mi dice che il muro è sottile, provo a colpirlo. 10. Vabbè, lo colpisco, è un cazzo di muro, è fermo. Sì, ma non lo scalfisci, come se niente fosse. Dai, dammi una mano, gli dico, e lo colpiamo insieme. Provo di nuovo a cercare, a fare un'altra investigation, tanto una cosa che posso ripetere. Guarda, come sarà teso, Vex? Che palle, sempre 5, 5 più 5 10. Noi due liberi di fare quello che vogliamo, lui non può fare niente. Dove l'hai fatto? Sì, più che altro credo che totalmente disinteressato. Nella stanza in cui sono adesso, dove c'è la statua. Ok. Non trovi porte segrete. Ma io quindi non posso fare altri tiri, sto lì così è buona. Esatto. Varys, anche te ne diresti di alzarti? Non puoi alzare, capisci che non puoi volontariamente allontanare. Alzarmi, tu dovresti piuttosto metterti in ginocchio davanti al magnifico, come cazzo si chiama? È un dio senza volto. Il dio senza volto. Al magnifico, come cazzo si chiama? Presto, fratelli, accorrete davanti al più grande, al più magnifico. Tipo prendessi il martello di Garrosh e la statua, avresti qualcosa in contrario? Lo dici a me o al master? No, a te Varys. Cosa? Deturpare il magnifico? Impossibile, non lo useresti tanto. Glielo passo, glielo devo neanche chiedere, glielo sto già passando. Dopo che ho sentito le parole di Varys, non glielo do, non serve neanche che chiede. E faccio due attacchi di martello contro la statua. Ok, martello. Se lo usi a due mani fa un di 10. Cioè, possiamo andare a prendere i poteri senza il paladino. E state sprecando l'occasione. Beh, non che quando ci fosse fosse cambiato. Sì, esatto, ragazzi, adesso, cioè, smettiamola, che tanto praticamente è tipo, io vi dico, ma forse è così, cosa è così? Allora facciamo esattamente l'opposto, anzi l'opposto dell'opposto, si può oppostare al cubo? Che gusto c'è a prendere i poteri senza il paladino? Qui c'è un burrone, esatto. è meglio stare lontani, lanciamoci! Esatto. Se no la vita non è vissuta. No. Allora faccio tipo un 24 e un 23. La statua viene distrutta e si frantuma in mille pezzi. Bardistran, sei libero. Dico, tanto più semplice di quello che pensavo. La cosa mi puzza. Nel frattempo Race sgattaiola qua e là e nota una strana pertugio. PNG activated. Bravo. Vabbè, alla bacchetta. Avrei dovuto fare un terzo tiro. Vediamo se col terzo tiro. Il terzo tiro avrei fatto 22. Tra l'altro, colgo l'occasione, visto che vi stavo ascoltando oggi l'ultimo podcast che ho inserito, che è l'episodio 63 della maledizione di Katta, e praticamente io avevo visto nel riassunto, che c'è ancora in effetti, che si diceva che io avevo, cioè Vardis, aveva preso sta boccia, sta pozza, e aveva trovato la porta segreta, no? E sì. Mi sembrava molto strano, tipo, boh, non è una roba che normalmente il mio personaggio fa. No. Ho detto, boh, vabbè. Sì, è stato. No. E infatti dopo sentivo, ed è bellissimo perché, tipo, è già lì, Katta, tipo, fa Evardistran, quindi tocca la pozza e comincia ad aprirsi l'inferno. Dico, come, scusa? E Giulio fa, no, sono io che tocco cose. Però si vede che questa gli è rimasta come cosa. Comunque no, era solo confuso tra i due. Sì, no, però faceva ridere perché tipo non era assolutamente del mio personaggio e c'era Giulia, cosa? No, sono io. Si vede che mi sono di nuovo confuso. Dai. Perché siete le due facce della stessa medaglia. No, esatto. Mi sembrava strano, Giuliano, dico, boh, strano che io abbia fatto una cosa così. Le due personalità di una stessa persona. Dai, bravo. Quindi trova l'entrata, va. Race apre la porta segreta e quando si chiude centinaia di teschi umani franano in avanti come se questo stanzino fosse completamente pieno di teschi dal pavimento fino a su ancora più in alto della porta e avendolo aperto quindi mi ha fatti franare. Metti di fare il saluto, Katta, che non è bello. Vabbè, però l'importante è che siano morti questi e non fiammeggianti. Sono normali. Questa è la porta sbagliata. Beh, intanto però io mi rialzo e dico: cosa è successo? Che succede? E quindi praticamente è uno stanzino. Comunque ti ridò il martello. Bravo. Cosa è successo? Sei stato come... Boh, ti sei prostrato davanti alla statua come se niente, Varlis. Abbiamo salvato il culo come al solito. Sì, meglio. Quindi, la magia d'incantamento è finita, giusto? Bene. Ma io ricordo di quello che è successo, o no? Tu certo ti ricordi. Ma un piacere, perché sei un mio amico di data. Non voglio che mi si dica grazie. Allora no, se mi ricordo... Al potere della sorte. Se mi ricordo, allora no, ringrazio Atanas e dico grazie Atanas per avermi liberato. Dovrò fare penitenza per questa caduta della mia fede. Purtroppo forse sono un po' stanco e la mia fede ha vacillato, ma grazie per avermi liberato da questo incantesimo. Il gufo ancora lì, ti prega. No, il gufo è tornato operativo. Però adesso scopre una piena di teschi umani. Ok, ma si passa? È completamente otturata da questa massa di ossa. Se ci si mette lì e si rimuovono, magari si scopre che cosa c'è dentro. Va bene, vogliamo farlo, facciamolo. Io mi metto a giocare a cricket col mio martello e un teschio. Ok. No. Una singola persona riesce a sfruttare questa stanza per crearsi un passaggio in 5 minuti. Chiaramente più persone ci lavorano. Vabbè, direi che io e Giulio lo facciamo, dai. Sì, anch'io stavo scherzando sul cricket. Sì, sì, spostiamo. Ok, in un minuto. E faccio una canzone di incoraggiamento. Liberate questa stanza riempiendo praticamente questa, quella in cui siete, che tirate fuori. E questo stanzino è 30 piedi e i teschi arrivavano, la riempivano del tutto. Tutti i teschi umani, quindi, terribile. Una volta che la svuotate, notate che c'è un forziere incollato al soffitto. Sempre il microfono, Kat, eh? Scusate, c'è un forziere incollato al soffitto. Ed è? A testa in giù, cioè come se fosse... sotto. Quanto è alto il soffitto? 30 piedi. Cos'è che c'è a testa in giù? Un forziere. Un forziere incollato al soffitto. Beh, chi meglio di uno che corre sulle pareti può raggiungerlo? Un forziere di ferro. In realtà sì, o se no qualcuno sulle mie spalle. No, il corro sulla parete... 30 piedi però sono un botto. Sono 10 metri. È tipo la tromba di un ascensore. Posso raggiungerlo io? Tu fai 35. Posso provare a raggiungerlo e tipo aggrapparmici, nel senso provare a prenderlo. Se vedo che non ce la faccio, ritorno giù. E puoi provare, puoi fare una prova, ma devo camminare. Dovrei fare un athletics, Demo. Sì, va bene. Posso aiutarlo lanciandolo? Sì, certo. Lo aiuto lanciandolo. Ok. Non importa. Vale. Ma non ha senso, io cammino sulle pareti. Grazie, ti ringrazio. Scusa, è Aragorn che lancia Gimli e qui io lancio ormai, te. Io ormai sei stato lanciato. Non dirlo all'elfo. Non abbiamo elfi, tranquillo. Dai, fai stato Lennox. E se intendi Kevin, tu ucciderlo. Vabbè, io faccio... io faccio un athletics, se lui mi vuole aiutare non lo so, vediamo. Se non ce la faccio, dai, mi aiuti. Athletics. Io faccio 13. Ok, dai. Ok, riesci ad aggrapparti alla forziera? Si apre? Il forziere è chiuso, però non è chiuso con un lucchetto che... Non vedi un'entrata, un'entrata di una chiave? È come se fosse sigillato. Mm-hmm. Provo, gli tiro una martellata. Riesco? Stando appeso con una classic mano sull'altra. Faccio un altro critico. Che carica dal martello, esco dalla stanza. Faccio okay. Un athletics e faccio 20 totale, non di dato. Ok, noti che il forziere è completamente impervio al danno delle armi. Vabbè, allora torno giù e lo dico agli altri. Ci vorrebbe un po' di magia, ma non li ho finiti. Ci vorrebbe anche un ladro. Il forziere è tipo incollato al muro, non si può staccare. Se solo avessimo un ladro con una mano magica. Esatto. Direi che su questa premessa possiamo chiudere la puntata. Esatto. Ecco, c'è mezzanotte. Esatto, dai. Così esatto. La prossima speriamo che ci sia. Bene. Va bene. Allora, avete visto episodio 67 della maledizione di Katta. Se ci avete seguito, continuate a farlo. Se non ci seguite, fatelo. È lungo, ci viene il cramp. Hai ragione. Sui nostri canali social, Tycoons & Dragons, RipGDR, il podcast, ovviamente, che presto si andrà, diciamo, ad arricchire di altre puntate. il nostro blog, ovviamente www.gdr.wordpress, che dovreste trovare se non vado errato in alto, e nostre pagine Facebook e Instagram, come Instagram sempre, che esatto, avete visto che con si tutti i meme arrivando, creati dal buon Sceo, grazie a lui. Ho trovato la mia, la sua vocazione, la sua strada, esatto, esatto, all'interno del gruppo. Bravo, bravo. E va bene, buonanotte a tutti, alle prossime con Tycoons & Dragons GDR. Prossima settimana Umbra Imperi, giusto Giulio? Sì. Bravissimo. E allora buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte. Ciao.